non c'era colonna sonora più solenne della cavalcata delle Valchirie, in questo caso nell'edizione dell'Orchestra Sinfonica di Budapest, per introdurre una puntata specialissima di Ottimisti Geneticamente Mortificati, in cui abbiamo un super ospite che si è appena posizionato. Io sono emozionato perché devo dire che nella mia, come dire, breve carriera di podcaster non pensavo di avere mai... capito, sai, il tenore, no? Perché è con noi, ma ve lo dico dopo la sigla. Runtime Radio presenta Ottimisti Genericamente Mortificati. E ribuonasera a tutti, bentrovati. Approfitto per salutare tutti quelli che ci stanno ascoltando fin dalle 8, fin alle 20 e qualcosa, quando ho lanciato la prediretta con il contest. Dovevate indovinare, finora nessuno ci è riuscito, qual era il 3 di Union, quindi l'anello di congiunzione tra tutte le canzoni, tutti i brani che vi ho fatto ascoltare in questa prediretta. E il primo che avesse indovinato avrebbe vinto un caffè corretto da Gualdi. Poi tutto si può prestare ad interpretazioni, io non spiegherò più di questo. Però resta il fatto che ancora, tra tutti gli amici in chat che vado lì a salutare, che sono in ordine inverso, appena arrivato Lobby Frontali che ci ascolta le retrovie, Rizzard, Zio Mischi, piuttosto ancora che Davide Gatti, l'ho già detto, e sto scorrendo la chat ovviamente, Stefano, Lobby Frontali eccetera, nessuno, e dico nessuno, ha capito qual è il punto di congiunzione tra tutti questi brani. Lo diremo dopo, perché parleremo di qualcosa che in qualche modo ci si ricollega. Nel frattempo, come dicevo, fatemi essere emozionato, perché oggi è qui con noi per parlarci del suo ultimo libro, Chi beve prima beve due volte, l'esimio professore, tre lauree ad Oxford, tuttologo, nonché espertissimo di fatti della qualunque, il professor Mark O. Gwald. Bonseri. Perché mi sembra un po' Trump? Bonseri. Momento con poco shoot. Tra l'altro il nostro esimio qui, professore, ha portato un unguento delizioso, poi vi spieghiamo. It's better now, yeah, good, very good, now very good. Very fucking good. Very fucking good. Ok. Allora, dunque, zio dice che non si fidano nel caffè corretto del Gualdi, vabbè, poi quando arriva Gualdi chiediamo a lui. Nel frattempo, professore, allora, spieghiamo subito il contest. Allora, lei intanto è qui per parlarci del suo ultimo libro. Yes, my last book. Perché dovete sapere che il professore qui è dall'alto essere innovatore, del suo essere, diciamo, un personaggio fuori dagli schemi e anche fuori dalla cricca. Scusate, i tappi. Mi cadono i tappi. Il professore è un fenomeno perché, sapete, tanti grandi scrittori si appoggiano, per esempio Stephen King, ad un esercito di ghostwriter che scrivono per lui. Lui butta giù un canovaccio di massima un'idea, e poi ci sono questo esercito di cinesini che scrivono al posto suo. Devo essere preciso, perché non è ghostwriter, ma è ghost drinker. Cioè, nice. Loro bevono al mio posto. No, però ecco, professore, quello che volevo raccontare è che però lei è poi innovatore. Io bevo anche io, quindi beviamo tutti. Mi sembra giusto, bisogna sempre bere meno, bere tutti. È ora che io mi apra un'altra bottiglia. Ma prego, faccia come fosse a casa sua. Peccato nei tappi. Dicevo, insomma. Faccia. No, nel frattempo approfitto per raccontare questa cosa. Dicevo, ormai non sei uno scrittore se non hai almeno 7-8 ghostwriter pagati per scrivere al posto tuo. Il professore è talmente avanti che non ha i ghostwriter, lui ha i ghostreader. Praticamente lui paga delle persone per leggere i suoi libri. Esatto. Che non a caso sono dei bestseller, esatto, internazionali. Ho fatto 15 milioni di venduti dei libri in soli 2 giorni. Ragazzi, cioè, forse questo è oserei dire sicuramente l'ospite più prestigioso che abbiamo mai avuto ad OGM. Absolutely. Ma probabilmente in tutta la storia di Runtime. Mi dispiace che questa sera Simone Pizzi non è con noi, perché ci avrebbe potuto confermare o smentire. Who is Simone Pizzi? Pizzi. Pizzi. Pizzi. Con due Z. Yes. Pizzi. Pizzi. Swiss Simone Pizzi? È il padrone del Cucuzzaro, insomma. The Pageant, you know, yeah. Oh, beh, allora, come funziona, appunto? Ora il professore ci illustrerà le sue ultime fatiche letterarie. Nel frattempo io vi esorto, ve lo ricordo, perché il professore è un tuttologo. Yes, of course. Questo significa che possiamo affrontare con lui, grazie alla sua ampia disponibilità, tutti i temi che volete. Tuttologio. Lui è un tuttologo. Joe. Joe, cosa fai? No, perché sei fuori dalla chiesa, Joe? Italiano, cosa fai? Perché sei a campo del pallone? Non parlo bene italiano, capisco meno. Non ti italiano, preoccupare, sei però, una compagnia. Però io ho imparato a bere italiano, quindi questa è buona birra italiana. Che benissimo, perché dovete sapere che anche oggi abbiamo il nostro sponsor, però ne parliamo dopo. Allora, dicevamo, ragazzi, diventate protagonisti di questa puntata, perché io come sono qui da solo con l'ospite, poi non ci vogliate fare un cazzo. Fatti tante domande e lui darà una sola risposta. No, darà risposta tante a tutte risposte. Le domande. Io ho ghost answers. Capito, ragazzi, cioè, ho anche quello. Io ho tutti. Io pago. Io pago. Allora, mentre d'altronde con 15 milioni di libri venduti in 2 giorni, so ricco. Sapete qual è poi il segreto? Il professore è modesto e non lo dice, però diciamo io mi sono informato, quindi posso dirlo al posto suo. Il grande intuito del professore, oltre ad aver venduto 15 milioni di copie dello stesso libro grazie all'uso di questi ghostwriter, lui è stato ancora più bravo, perché lui non ha in realtà venduto 15 milioni di copie del libro, ma ha venduto 15 milioni di volte la stessa copia. Of course, because la copia una costa 15 milioni, costa non very much. So very much. Ho dovuto investire in recupero libro. Professore, però posso dirlo che posso farle notare. Io sono. Cioè, non voglio assolutamente contestare le sue origini irlandesi, no? Perché proprio. Però c'ha qualcosa di italo-americano nel suo fare, nel suo porsi, mi sbaglio? Scusa, ma Ministro Johnson inglese, che è un po' anche americano lui. Non ho capito. Ministro Johnson. Sì. È un po' anche americano lui. Io posso essere anche un po' americano. No. Anche un po' italiano, insomma. Anche un po' italiano, perché mia bisnonna veniva da un paese piccolo in Italia che si chiama. No, mai sentito questo paese? Questo... No, infatti non esiste. Questo paese mai sentito. Inventato adesso. Molise. I don't know. Bene, professore, allora, mentre i nostri ascoltatori si preparano le domande, intanto gliene sottopongo un paio io, perché mi sono preparato un paio di tematiche. Nel frattempo Zimischi ci manda un quadratino, non so perché, non capisco Ziminchia. No, non si dice, non capisco. Devo spiegare che non so per quale motivo l'emoticon che probabilmente ci ha mandato non viene interpretato dal parser sul sito web, ma neanche sulla nostra regia, e quindi onestamente non so cosa. Che fotina, che faccina, che emoticon abbiamo mandato. Nel dubbio mandiamola a fanculo, perché Io sono d'accordo. Mandare fanculi. Diceva por anima di babbo, nel dubbio assoreta. A fanculi. Esatto. No, c'era proprio un quadratino, vabbè. Sono scelte editoriali anche. Nice queste. Quadratini, cos'è quadratino? È uno square, un little square. Please speak as you eat. Little square. Yeah. I speak as I drink. Better. Io però, professore, volevo il suo parere su questo fatto. Non so, probabilmente la cronaca, diciamo, di paese in qualche modo italiana non la segue. Questa storia viene da Padova ed è una storia anche abbastanza divertente. Sostanzialmente conosce WhatsApp lei, no? Ah, yes. I have WhatsApp on my phone. Yes. My smartphone has WhatsApp. Yes, WhatsApp. Non guardi WhatsApp. Ah, guardi, nice. WhatsApp. Look at me, professor. Hi, how are you, dear Linda? Say yes. Listen to me. Ok. Praticamente, sapete, no, si usa creare gruppi per far restare in contatto con dei gruppi, diciamo gruppi di persone. I have a personal WhatsApp chat when I speak with my ghost riders and ghost readers and ghost answerers and ghost drinkers. Ecco, ma anche più in piccolo capita che si facciano dei gruppi, per esempio il gruppo gruppo di ghost. Mi sembra giusto. Io però non mi faccio mancare nulla. Focalizziamo, per esempio si fa, che ne so, il gruppo delle mamme pancine a scuola, piuttosto che il gruppo per, mamma pancine, me lo spiego in una separata sede, e oppure non lo so, il gruppo del calcetto del mercoledì sera, perché non tutti come noi fanno radio il mercoledì sera, c'è calcetto, che fa il calcetto, tutte le cose così. Nel frattempo zio, a proposito di calcetto, dice la sfaccimma del Napoli che a 9 minuti dall'inizio perde già 1-0. Vabbè, poi magari ne parliamo, perché oggi c'è la Champions, motivo per cui insomma ci ascolteranno in po'. Champions, what's Champions? Fatto sta che tra insomma vari gruppi che sono stati mai creati c'è quest'idea, non credo che sia un caso raro, di questa parrocchia in cui per volere del parroco e delle catechiste, credo, è stato creato questo gruppo WhatsApp in cui il sacerdote, tra l'altro della veneranda età di 73 anni, comunica con i genitori dei bambini che fanno il catechismo. Bella cosa queste cose di comunicare con bambini. Very, very nice, very nice. Tutto bello, tutto tranquillo, very good, fino a quando non si sa bene perché. Posso dire che è meglio che parroco comunichi con bambini tramite chat. Allora, è molto meglio. Allora, un momento, perché cosa è successo che in questa chat di questa diocesi di meglio Padova? Meglio che dal vivo. Meglio. A un certo punto, nella chat è apparsa un'immagine hot. C'è un'immagine CAD piena di fuoco? No. Un'immagine piena di porno. Non sappiamo bene il dettaglio. Pare siano girate le screenshot, però noi non l'abbiamo vista. Potrebbe essere perché mi è arrivato un messaggio da un certo Simone Pizzi. Forse, no, il problema sai forse dov'è? Forse quello che comanda Baracchi, che mi manda foto e mi dice che potrebbe essere foto di Cazzi Scapolati. And I don't know what's Cazzi Scapolati. Allora, in questo caso non so dire quale fosse il soggetto della foto, ma quello che ha fatto scalpore, quello che crea la notizia, è il fatto che a mandare la foto nel gruppo sia stato il sacerdote stesso. Quindi sacerdote senza Cazzi Scapolati. No, non sappiamo se scapolare o tette di fuori o culinario, non sappiamo. And why? È quello il problema. Allora, la spiegata why me lo deve dire lei? Perché la domanda è questa. The question is why? The question is: il sacerdote ovviamente è stato allontanato dalla diocesi, massimo riserbo, eccetera. La spiegazione che ha dato il sacerdote, ovviamente, quale può essere stata? Lei come si sarebbe giustificato? Lei che è un... Molto semplice, io avrei detto che ho sbagliato chat. Oppure... una cosa insomma per discolparsi maggiormente, perché ha sbagliato chat, ma prete che fa le immagini di porno. È molto semplice, che ragazzo negro di stazione ha rubato il mio telefono. Quasi. Vedi, ci sono tanti ragazzo negro di e gay di rubato il mio telefono in stazione. Stiamo diventando sovranisti. No, però diciamo in qualche modo ci si sta avvicinando, perché la spiegazione la sta anche Davide Gatti in chat, dice virus si sta avvicinando, perché l'affermazione è stata: mi hanno hackerato il telefono. È meglio storia di negro che ruba telefono, è più credibile, molto molto più credibile. Io stesso molte volte mi ruba negro il telefono, però magari il telefono lui ce l'aveva in mano. Come dite negro in Italia? Cosa? Come dite negro in Italia? Negro? Sì, negro. Ma questo è molto razzista. È vero, molto razzista. Mente schifo. Voi come dite? Colorato? Nica. È meno razzista. Tu capisci, nica? No, è meno razzista. Vabbè, prendo atto io adesso. Chi sono io? Scusa, ma ho bisogno di sgranchirmi un po' la corda vocale. Prego, prego, faccia come fosse nella sua cucina. Scusate, mi cadono sempre tappe. Non so perché. Mi permetto di unirmi al brindisi. Forse perché slanci. Forse perché mi tremano mani. No, non so, forse devo prendere sciroppo. Vedete che prendo il sciroppo per le mani. Tra l'altro questo sciroppo di sua preparazione mi stava raccontando che è un elisir. È vero, molto buono, elisir di long life. Nel frattempo, giustamente, Rizzard dice sì, un troione gli ha hackerato il telefono. What's a Trojan? Trojan è quel virus. Ah, Trojan, no. Allora, dicevamo, questo suo elisir miracoloso. Questo bellissimo elisir che io ho preso da una ricetta di mia antenata che veniva da piccolo paese che non so col nome, forse era Fuggimpopolo, non so il nome, perché è morta. Mia antenata è morta prima di dirmi il nome del suo paese. Molto brutta perché storia. È un po' infame questa cosa. È lì che mi diceva, io sai che io vengo da... ed è morta. Veramente molto infami queste cose. Comunque, in ogni caso, ho preso questa ricetta e ho fatto un migliorie. Queste migliorie mi hanno dato la possibilità di avere questo grande elixir che funziona very much on the qualsiasi cosa. Cosa ti fa male, piccolo uomo? È un po' di cervicale. Prendi pure il mio, serie, assaggi. C'è un gusto un po', non so, zuppa di cozze, non capisco. E non posso dire ingrediente perché è segreto, però tu puoi avere molta miglioria di cervicale. In questo momento tu stai passando cervicale. Sì, forse sì, però... Un momento. Non mi sento più la chiappa destra. Aspetta che io adesso ti... una cosa, un altro piccolo ingrediente segreto che appunto devo prendi questo piccolo ti piace questo piccolo ingrediente segreto? Piace questo piccolo ingrediente? No. Prendi. Questo adesso tu usi questo piccolo bastoncino che è un chiaramente un bastoncino per girare meglio. Sì. Sì, allora no, devo confermare che il potere terapeutico della bevanda dell'elisir va girato con quel bastoncino di carta che... Sì, no, devo dire ha fatto un effetto, come posso dire, cioè la cervicale è sparita, io non... Tutto merito di... Professore! E questo piccolo effetto collaterale. Per un po' di aria panza, va bene, vai. No, ma si può fare. Oh, quali altre, per esempio? Non lo so, io vabbè... per esempio c'è la mia povera zia Betta che ha problemi di, come dire, ipertricromia... Per esempio... Che possiamo fare per lei? Innanzitutto vorrei sapere se piace baffi, oppure se vuole barba, oppure se vuole pizzetto. Se no io penso che lei, come dire... Basetta lunga, very very good basetta lunga. Diciamo che lei sa come fa, sta cercando marito a 52 anni, si deve sbrigare. Allora io farei bene sir a probably marito. Works better. E non c'è il probabile marito perché come la vedono, mamma mia, scappano. Ma no, queste persone non deve sapere chi è il probabile marito, basta che beve l'elisir, tanto l'elisir diventa futuro marito. This is very good. Trust me, this is very good. Lei fa bere questo mio elisir a probabile marito senza dire tu adesso diventerai mio probabile marito, se no non funziona. Ah, quindi io devo cercare una vita, yes. Cioè un volontario, non proprio volontario, ma basti che questa persona ti piaci a tua parente, insomma, no? Ah, ok, deve scegliere lei. Yes, dice, tu prendi questa che è buona, good, very good, very good, very good bevanda. Bevandi, yes. Bevandi. Bevandi. E lui più beve questa elixir, più probabilità che diventa marito. Io lo so che funziona. Ma quindi fa sparire i baffi, lei mi garantisce la... No. Non ci sarà bisogno perché questo marito potrebbe amarla coi baffi. Basta che beve tanto. Basta che ne beve tanto e continua a drinking the elixir. Ok, quindi quante mo lo dico a zia, quante casse ne deve ordinare? Very much. Vabbè, facciamo un prezzo di favore, certo. Tu mi dai dietro il bastoncino di carte che hai dato prima. Bastoncino, quello è mio. Ma serve per comprare bastoncini. E mica devo comprare, compra zia. Uguale. Allora metti a tutti i bastoncini di carta. È possibile comprare online l'elisir di lunga vita del professor Ogwald? È assolutamente possibile. E poi vi diremo il sito internet dove potrete comprare questo simpatico elixir che è mio. Al sapore di cozze, che è buonissimo. Very, very good, very appreciated. E poi è strano perché ribevendo adesso un altro sorso, no? Cioè, cambia un po' il retrogusto. Adesso sembra un po', come posso dire, metà tra salsiccia affumicata, però salsiccia di polmone, sa, quella di... E non lo so se... polvere pirica, non capisco. Se tu capisci, questo elixir non è più un segreto di stato come è adesso, ma diventa di dominio pubblico ed è meglio di better no. Col soul. Bene, professore, invece, per esempio, io volevo porre alla sua attenzione anche quest'altro quesito. Io credo che in questo caso la persona che si sia fatta, come dire, fregare, non ha bevuto l'elisir, perché insomma, sostanzialmente, cosa è successo? Questo è successo a Monza, quindi è tra l'altro notizia di oggi. Una ragazza, tra l'altro c'è anche il nome, 19enne, ha avvisato le forze dell'ordine di essere la testimone di un tentato omicidio. Ovvero, questa ragazza avrebbe dichiarato che il suo attuale ragazzo avrebbe tentato di uccidere il suo ex fidanzato. Probabilmente il movente sarebbe dovuto essere quello della gelosia. Che veramente brutte storie. Veramente brutte storie. Se non che gli inquirenti, che evidentemente hanno bevuto il suo elisir, hanno indagato. E cosa hanno scoperto? Non posso sapere queste cose. Cosa hanno scoperto questi? Scusa, lei ha tutte le risposte. Erano domande? Cosa hanno scoperto? Hanno scoperto brutte cose. Esattamente, vede, cioè, brutte cose. Assolutamente, è vero. Cioè, cosa è successo? È successo che questa ragazza ha convinto l'attuale ragazzo, perché evidentemente è molto brava nelle arti convincitorie, capisca a me, brava, ad uccidere il suo ex ragazzo. Quindi lei che ha fatto tutto questo giro, questa denuncia, era la mandante del tentativo di omicidio. Però alle forze dell'ordine di Monza Brianza non la si fa. Forse ho perso qualcosa in transition. Allora, questa ragazza dice: tu ragazzo attuale, tu mazza, kill my old ragazzo. E poi questa ragazza go to the police. Guarda che mio nuovo ragazzo kill my vecchio ragazzo. Sì, esattamente così. Nice. Why? Me lo dica lei. La risposta è molto semplice. Questa ragazza voleva tornare single. E non bastava dire non te la do più. Il problema è che qui è ragazza di 19 anni, quindi molti uomini, molta capacità di pensare bassa. E quindi ho detto, ma facciamo che torniamo single in questo modo. No, ma la cosa cruenta di tutta questa notizia è che brutta, avrebbe dato brutta, anche disposizioni su come doveva essere eseguito il delitto. Ha detto: mi raccomando, davanti forze ordine. Quasi ha detto: okay. Deve morire a calci in bocca mentre lo tieni fermo. Deve finire nel sangue. Interessante, brutte. Questa ora brutta. O lo tieni fermo o gli dai calci in bocca. Queste sono veramente brutte storie di come una persona vuole diventare single. Non si diventa così single. Basta bere un po' del mio elixir, o far bere meglio elixir, e persona può diventare single. No, scusa. No, un attimo, abbiamo fatto l'ordine. Pezzia. Io ho prodotto veramente grosse quantità, huge quantity. Non mi sono spiegato. Cioè, io ho comprato 8 casse, zia ha comprato 8 casse per trovare marito. Ora lei mi dice che uno beve e diventa single. No. Può anche ti far diventare questo. Il mio elixir serve per tutto, mio caro Sbuni. Può servire anche per questa cosa, per cui stia tranquillo che funziona per tutte cose. Vabbè, intanto zio Mischi ci chiede, dice, la sapete quella dei tizi in Canada? Hanno trovato una mini SD. Scusate, mi è caduto l'altro tappo. Prego, beva. Sì, diceva, ho capito a quale aneddoto ci sta facendo riferimento, zio. Praticamente dei tizi in Canada hanno trovato per strada una micro SD. Hanno controllato cosa ci fosse nel contenuto e pensate, c'erano le vere immagini di un omicidio avvenuto proprio pochi giorni prima, proprio nella stessa zona dove è stata trovata la micro SD, quindi praticamente hanno trovato le prove. Trovate le prove di questa brutta situazione, brutta storia. Mm-hmm. Sono cose brutte che succedono, ma poi queste SD lo hanno usato per metterci sopra porno o hanno usato per dare forse le ordine? Probabilmente hanno formattato e hanno usato il porno, cioè, almeno io avrei fatto così. No, poi, of course, perché persona civile fa questo. Sì, e poi manda WhatsApp con foto molto hot. Ah, quindi ecco, vedi che tu. Vedete che grazie alla visione dell'universo del professore, noi riusciamo a cogliere gli elementi di congiunzione tra fatti che sono brutte storie, veramente. Assolutamente. Bad stories, perché queste persone che fanno cose brutte, noi non facciamo fare cose brutte. Se bevete le mie mani, fatte con le mie mani, voi non farete mai cose brutte, solo cose belle. Vedi, grazie. È un momento di, come dire, di elevazione spirituale, culturale. Ha detto tutto. Spirito, ha ragione, spirito, molto spirito. Scusate che devo fare un attimo. Faccia. C'è bisogno un po' di spirito, infatti. Buono. Professore, parliamo. Però io ho poco tempo. Adesso devo andare a distribuire i miei desideri, i miei libri in un negozio qui vicino, che è il negozio dei libri e dei desideri, che devo appunto distribuire. E mi danno tanti bei bastoncini di carte per ringraziare per queste cose, quindi quanto tempo manca, se mi dice? Professore, se vuole io la congedo dal pubblico a questo punto e poi magari facciamo una cosa, se il pubblico a casa avesse delle domande da porle, la chiamo al cellulare e lei magari gentilmente ci dà una risposta. Ma se proprio dovete, va bene, ok. E io la saluto con l'ultimo brindisi, ecco. Slanci che te vuoi slanciare. E buon ritorno in Irlanda. Io mi sono tutto comprato il mio ultimo libro che com'è che si chiama il mio ultimo libro? Ultimo libro, io sapevo si chiamava così. Ah, bravo, il mio ultimo libro che si chiama Ultimo Libro. Compratelo, perché così io potrò permettermi di bere. Bene, professore, noi non possiamo a questo punto fare altro che ringraziarla. Io mi accomiato per qualche minuto dai nostri ascoltatori. Mettiamo un brano, poi torniamo in diretta anche con la presenza del nostro amico Marco Gualdi. While I'm scrubbing these floors and I'm scrubbing the floors while you're gawking. Maybe once you tip me and it makes you feel swell in this crummy southern town and this crummy old hotel, but you'll never guess to who you're talking. No, you could never guess to who you're talking. Then one night there's a scream in the night and you wonder who could that have been. And you see me. Vabbè, Gualdi, buonasera, ben trovato. Io non capisco perché mi avete chiuso fuori. Erano mezz'ora che sto suonando sotto. Marco, io te l'ho sempre detto. O arrivi in tempo, almeno 5 minuti. Ma io arrivai in tempo, ero qua sotto, suonavo. No, mi dispiace. Pizzi, dove sta? A dove sta stasera? Che io mi ha detto, portami quest'altra, le cuffie, e sparisce. Ma quando fa così, lui ti sta facendo capire. Guarda. Fai questo, fai quest'altro, perché io faccio il vento, quindi. Ma poi che cazzo è tutti questi? No, niente, sono tappi miei, lascia perdere, stavo a giocare a Fallout, non ti preoccupare, non c'è badà. Via, leviamo dalle scatole tutti questi tappi, ma cioè io non ho capito, cioè la postazione è piena di tappi, scusate che ritardo, scusate, immagino che siete rimasti qui da soli col povero sbaglio. Però, che facevate, Marco, dimmi una cosa. Sì. È vero che nel tragitto, mentre arrivavi, hai ascoltato la prediretta, hai sentito la bellissima musica che abbiamo trasmesso. Sì, poi dopo sono sceso, non ho sentito perché stavo qua sotto che suonavo. Però sì, bella la musica, eh. Ok, però io ho lanciato, un concorsino, un contest agli amici che ci ascoltavano. Lo avrei fatto anche io, guarda. Hai visto? E io ho detto che il primo che avesse indovinato cosa unisce tra loro tutti i brani che abbiamo messo avrebbe vinto. Sono brani musicali. No, c'è un altro Phil Rouge. Qual è? Scusa, manco l'ho sentito. Sentivo delle musiche di sottofondo, ma cioè, se vuoi le rimetto da capo. Facciamo, sì, ecco, facciamo un'ora di. No, meglio di no. E vabbè, insomma, nessuno ha colto la citazione. Per questo punto facciamo un gancio. Guarda, andiamo a parlare di uno dei temi che a noi è caro, andiamo, di cui più o meno parliamo in tutte. No, non quell'argomento lì, anche perché questa volta non c'è molto. Anzi, una cosina c'è da dire su quell'argomento lì, ma siccome non è che ci dobbiamo fare le declinazioni, la diciamo al volo. Per chi fosse interessato e andasse o volesse andare a Lucca Comics and Games quest'anno, e farsi svenare, perché ormai quando vai lì fai le file, ti fai svenare. Però potreste, se siete fortunati, se trovate posto, avere l'occasione di partecipare ad un panel con Patrick Stewart. Dove potrebbe morire in diretta, quindi ragazzi, che andate, cioè, esatto, perché cioè potrebbe succedere qualsiasi cosa, oppure potete perdere la dentiera, qualsiasi cosa, ma sono così truce che alcuna morte. Questo potrebbe farsela addosso, cioè qualsiasi cosa potrebbe succedere con Patrick Stewart, oppure semplicemente nulla. No, ma tra l'altro io sono molto curioso, perché voi sapete che ormai Lucca Comics è una kermesse talmente importante a livello proprio europeo, perché 200-300.000 persone, se non di più, ogni anno partecipano. Quindi come nei convegni della Lega. Sì, qualcosina di più. Non dico che siamo ai livelli del Comic Con negli Stati Uniti, però probabilmente Lucca Comics and Games è una delle manifestazioni del settore più importanti d'Europa, se non la più importante. Quindi ci sono grossi investimenti da parte di chi si vuole pubblicizzare con le novità. L'anno scorso, poi per esempio, cosplayer, sì, confermo. E l'anno scorso, per esempio, Netflix ha fatto grandi cose legate a, se non ricordo male, al sottosopra di Stranger Things. Quindi quest'anno che c'è il nemico, l'avversario dichiarato, Amazon Prime Video con Star Trek Picard, io sono curioso di vedere cosa fare, perché sicuramente anche Netflix farà parlare di qualche nuova serie. Tra l'altro, bestemmione del momento, ho visto pochi minuti fa un teaser della nuova serie di Ghost in the Shell realizzata da Netflix in CG. Se non siamo ai livelli dei Cavalieri dello Zodiaco, poco ci manca. Mi sarei voluto buttare alla finestra, se non che dal primo piano non mi faccio neanche abbastanza male. Però se butti di testa, cosa che sto bevendo? Ah, l'elisir, Marco, assaggia, poi dimmi. Di baffi. Se questo rilascio di baffi mi fosse venuta la cervicale, non lo so, boh. Vabbè, comunque in ogni caso, guarda, forse no, ma sai che c'è, forse era troppo poco, prova ad allungarlo con un po' d'acqua, sì, perché se un po' di cozza, tu sai che fai, se fai il guazzetto polveripirica, il sute di cozze, questo ce l'ho buttato sopra, l'acqua del guazzetto lì c'è tua madre, te la fai mettere da parte, no? E poi la metto nei tergicristalli, che funziona perfettamente. No, la fai il rabocco nella bottiglia, un po' come quando si mette l'olio nel peperoncino piccante. Sì, esatto, ok, perfetto. Lievito madre, queste cose qua. Esatto. Tra l'altro, zio Mischi, appena saputo della notizia, cioè della presenza di Patrick Stewart a Lucca Comics, ha detto: oh, cazzo, ci vado. Beh, giusto, allora, giusto. Visto che tu sei dotato di ovviamente cellulare, andrai lì e gli farei dire, ovviamente pagando 100 euro, perché dovrei pagargli 100 euro, ma cosa vuoi che siano per supportare OGM? Tu vai lì e dici: caro dear Mr. Patrick Stewart, can you say to everybody, viva OGM, e poi lui: viva OGM, e muore. Sarebbe fantastico. L'ultima cosa che dice è dedicata a noi. Ma sarebbe fighissimo. Cioè, no, mi dispiace per Patrick Stewart. È un po' come il nonnino, dai. No, ma è un po' come il nonnino. A questo punto, ragazzi, noi dobbiamo lanciare una sorta di scommessa. Secondo voi, amici di Runtime, chi schiatta per primo? Esatto, tra Patrick Stewart e il Bon Bill. Esatto. Lanciamo questo sondaggio. Il primo, aspetta, come facciamo? Allora, come ce la giochiamo? Perché ovviamente non vale solo il primo che risponde, perché tutti quelli che azzeccheranno il pronostico avrà. Allora, facciamo così. Ma ci possiamo mettere anche il giorno, così. Facciamo l'under e l'over, facciamo proprio come le scommesse sportive. Poi ce le dobbiamo segnare, però. Facciamo una cosa. Che ci che ci no, dico? Zio dice che in realtà ci va il figlio, ma gliela faccio gliela bravo, fare. Bravo, bravo, bravo, così sfruttatore pietisci bravo. Patrick Stewart con il bambino. Va bene, bravo, bravo. Allora, facciamo questa cosa. In chat, amici, dateci i vostri pronostici. Il primo, noi poi ovviamente salviamo la cronologia. Il necronostico, guarda che il necronostico. Facciamo un necronostico. Il primo che indovinerà la morte, chi mamma muore per mia. Primo. Ma tocchiamo il ferro per loro, guarda. Mi dispiace per mi dispiace più per Patrick Stewart, Patrick Stewart che William Shatner, però avrà l'onore di registrare il coccodrillo che manderemo in onda in puntata. Esatto. Anche con qualità pessima, non ce ne frega niente, però non andiamo proprio alla merda. Mandare. Comunque, sì, in ogni caso potrete vincere questa fantastica. No, premio. Un fantastico premio. No, questa fantastica opportunità. Opportunità, bravo, perché è un'opportunità, insomma, di diventare famosi come quelli che hanno predetto la morte di Patrick Stewart o di William Shatner. Allora, attenzione, perché primo c'è unanimità finora, perché sia zio che Rizzard hanno detto spero Shatner. O meglio, zio ha detto spero Shatner. Rizzard poco prima di lui ha detto schiatta Kirk, tanto è già schiattato. Lo so, ma quello è tosto, eh? Quello li sta a seppellire tutti. Infatti è a rischio. Li sta a seppellire tutti, perché Patrick Stewart, bene o male, è nato vecchio, quindi non è invecchiato, è semplicemente maturato. È proprio così. Ma insomma, Shatter li sta a seppellire tutti. Morto. Sai che c'è che Patrick Stewart è nato senza capelli, cresciuto senza capelli e visto senza capelli. Invece Shatner questa cosa è nato senza capelli, però non è riuscito a vivere senza capelli, tant'è che si è fatto attaccare questo tupè meraviglioso che tuttora... è bellissimo, però è stupendo. Dai. Sta benissimo. Pensa a Patrick, sì, Patrick Stewart. Pensa a William Shatner pelato. Tipo Mastro Lindo, sarebbe affascinante, però dai. Fascinating, come direbbe tipo vecchio Spock. Vabbè, comunque, a parte questa cosa, che cosa dovevamo andare a parlare di quella che è la cosa che ha dato origine a questa cosa musicale che hai fatto tu, questa potpourri di canzoni tratte da... Signori, lo possiamo finalmente rivelare. Siete dei cialtroni, ve lo dico con tutto l'affetto del conduttore semi ubriaco, perché stiamo bevendo questo elisir. Nessuno di voi è riuscito a capire che l'elemento che univa tutti i brani che abbiamo ascoltato nella prediletta di oggi era il fatto che avete capito quasi subito che appartenevano a una colonna sonora. E vabbè, forse dice fino a qua. Ne avete sparate tutte, perché avete detto veramente Apocalypse Now, Super Fantozzi, L'Esorciccio, tutti li avete detti, vi siete dimenticati Forrest Gump. Beh, vi siete dimenticati Watchmen. Il caro vecchio Watchmen, che torna. È tornato. Perché è tornato? È già tornato, esatto, in Italia, tornerà la settimana prossima. Però è già tornato su Sky. Su Sky Atlantic. Che differenza c'è? Che ne so, pure Atlantic. Un canale di Sky, si chiama Sky Atlantic, è andato in onda ieri in versione originale. Prossima settimana arriverà l'episodio con il doppiaggio del primo episodio della nuova serie HBO, appunto ispirata alla graphic novel The Watchmen, ed è il seguito fondamentalmente di quella graphic novel. Cioè, ti dice che cosa è successo 30 anni dopo. Sì, perché partiamo da un presupposto che intanto tutti a mandarci a fanculo, nessuno ha visto Watchmen. Vabbè ragazzi, io vedevo di nessuno di voi ha visto Watchmen. Non l'ha vista Lobby Frontali, non l'ha vista Davide Gatti, che dice neanche mai sentito, non l'ha vista Rizzard, non l'ha vista zio. Ma che tristezza. Ragazzi, Watchmen, ma chi ci segue? No, permettetemi di fare un piccolo assunto. Cioè, Watchmen è un'opera tra le graphic novel, è una pietra miliare, è un'opera che ha un valore artistico enorme. È una cosa incredibile. Cioè, Lobby l'ha visto. Il Mavafangulo era perché, ok, Lobby. No, il film magari non era proprio, come dire, dei migliori, anche se in realtà a me non è dispiaciuto. Forse no, era era brutto. Sì, diciamo che c'erano quei 30 minuti di sparsi, troppo, diciamo, quasi come fosse un film Netflix. Che fece un po' così. Però il film con un ritmato è figo. La graphic novel è fenomenale. Sì. Sì. Beh, è anche difficile da traspondere in film una cosa del genere, perché comunque tant'è che infatti ci sono dei cambi rispetto al fumetto. Però è del racconto fatto nel fumetto, nella graphic novel, che è da quello che prende spunto la serie per continuare la storia, e non dal film. intanto Peppe Rizzo ci dice il DVD, il Blu-ray e la graphic novel. E beh, allora c'è qualcosa che non va se non l'ha riconosciuto. Sì, ma non l'ha visto. Però hai sentito. Però non li ha visti. Lui ce li ha, ma non li ha visti o letti. Non l'ha visto e non l'ha letti. È plausibile come funziona. Comunque, insomma, è uscito questa puntata. Io me la sono vista in inglese. Ok. E ho detto, proviamo a vedere. Tanto abbiamo avuto la dimostrazione che il tuo inglese è fantastico. Impeccabile. Quindi per mettere, diciamo, più carne al fuoco, l'ho visto ovviamente con sottotitoli in inglese. No, americani. Americani. Perché il sottotitolo americano, cioè l'americano è diverso. C'hanno troppe. Pensate a suo marito. Sì, scusa. C'è un po' dei modi di dire un po' troppo americani. Comunque, in ogni caso, proviamo a vederlo. Allora, questo, la serie televisiva si svolge appunto 30 anni dopo dalla serie originale, dal fumetto, da graphic novel. Quindi, ragazzi, prima buona notizia: per una volta una serie non è ambientata negli 80, no, che esatto. Diciamo è un evento più unico che raro. È ambientato nei giorni d'oggi, ovviamente, i giorni d'oggi. Esatto, quindi veramente derivano direttamente da quegli eventi. Quindi non so se voi li avete. Spoileriamo? No. Beh, ma in realtà a questo punto abbiamo capito che Lobbyer e Rizzard dovrebbero conoscere l'opera, gli altri se ne sbattono allegramente. Esatto, comunque, se voi chi conosce appunto Watchmen sa che è finito in un determinato modo. In cui non so se raccontarlo o meno, perché poi magari spoilerò chi non ha visto il film. Rimaniamo sul vago, perché abbiamo da spoilerare cose che sono uscite un paio di settimane fa, quindi possiamo intanto spoilerare quelle, poi su Watchmen ci torniamo le prossime settimane. Quindi, insomma, prende praticamente diciamo, la storia della graphic novel e la espande, la porta ai giorni nostri. Differenze con differenze, diciamo, come si è evoluta la storia. Innanzitutto, le maschere continuano ad essere illegali, quindi non è possibile andare a fare i supereroi tra virgolette o i vigilanti. Il presidente degli Stati Uniti è Robert Redford, nel senso che è proprio Robert Redford, presidente Robert Redford. Cioè, spiegamolo ancora meglio, non è Robert Redford che interpreta qualcun altro, il presidente degli Stati Uniti d'America è Robert Redford, che è interpretato da Robert Redford. Cioè, in realtà non è sicuro che sia interpretato, perché può darsi che non si veda nel mai, nel senso, probabilmente non. Però ci sono foto e riferimenti al fatto che è Robert Redford, quindi quella persona lì che fa il presidente, cioè l'attore, che ovviamente. E poi sarebbe Ronald Reagan, che non ce l'ha fatta, perché ovviamente oggi lo sappiamo che ha fatto la fine, cioè Ronald Reagan è leggermente morto. E perché Robert Redford? Perché da quello che ho letto in giro nel fumetto, nella graphic novel, si diceva che l'allora Nixon, che era stato in carica per 5 mandati, probabilmente non si sarebbe ripresentato, o comunque si sarebbe avuto come avversario un tale RR. Immaginatevi un mondo in cui Nixon ha governato per 5 mandati. Non c'è mai stato il Watergate. Quindi, sì, non so, sì, però evidentemente ha cambiato le leggi in modo da poter essere eletto più di due volte. E diciamo, questo RR che doveva presentarsi contro di lui sarebbe dovuto essere probabilmente Ronald Reagan, che però ovviamente per ovvi motivi non hanno potuto inserire nel film, perché è morto. Quindi hanno trasformato Ronald Reagan in Robert Redford, quindi hanno probabilmente utilizzato questa cosa. Ma scusa, Rolando Ravello non lo potevano fare? Non so, era meno conosciuto. Comunque, in ogni caso, ci sono nella prima puntata tante cose buttate lì, quindi tante carne al fuoco che ovviamente non sarà mai spiegata. Potevano fare pure Roxy Red. Probabilmente. O Red Ronnie. E in ogni caso, praticamente tutte queste domande che continuano a essere, queste linee, diciamo, narrative che continuano ad essere aperte senza pausa, ti fanno senza venire, mai chiuderle, tipo Lost. Vabbè, sono appena cominciate, quindi è normale che già non chiudi, però ne apri ancora di più rispetto a quelle che potevi immaginarti. Quindi c'è questo mondo, c'è Robert Redford come presidente, Robert Redford che cerca di fare delle opere, diciamo, delle leggi contro il razzismo. Perché il tema fondamentale di questa serie è il razzismo, quindi le destre, quelle estreme, i suprematisti ariani. E tant'è che la prima puntata del telefilm comincia con il massacro di Tulsa del 1921, che è una di quelle pagine americane dove praticamente sono successe. Sono successe. No, però no. cioè nel senso c'è un po' di negazionismo su questa cosa qua. Cioè nel 1921 ci fu un massacro in Oklahoma, a Tulsa appunto, praticamente fatto, compiuto da bianchi. Ma un massacro, c'è stato un piccolissimo, vabbè, risguido. Hanno fatto fuori, diciamo, attraverso cioè, con gli gente armata, aerei, addirittura aerei. Hanno fatto fuori perché dentro era pieno. Era pieno, esatto. Hanno massacrato, allora, cifre ufficiali dicono una trentina di persone di colore, anche se in realtà poi ricostruendo la cosa sono più di 100, forse qualche centinaia di persone che sono sparite quel giorno. Qui è stata proprio una sommossa, un'uccisione di massa di gente un di colore. Sommosso è una cosa molto brutta. Molto brutta. E questa è una di quelle situazioni che poi l'America ha cercato di dimenticare. Tant'è che non si studia a scuola questa cosa, stranamente. Non è successo. Non è mai successo. No, in realtà è successa purtroppo. E viene presa questa cosa come incipit del telefilm. Quindi fanno vedere che cosa è successo in quel giorno e fanno vedere un bambino che si salva, che poi ritornerà in qualche modo nel telefilm. E fin qui ci siamo. Il razzismo è molto presente, perché comunque ci sono queste due fazioni: la polizia di Tulsa e il Settimo Cavalleggeri, che è un gruppo di estremi destri, quindi supremazia ariana e via discorrendo, che qualche anno prima aveva fatto specie di festino notturno chiamato Notte Bianca, dove non è che si restavano aperti fino a tardi con i negozi, no, praticamente questi suprematisti hanno cominciato a fare un'uccisione di massa di poliziotti praticamente a Tulsa. Poi apparentemente sono stati sconfitti, tra virgolette, questo Settimo Cavalleggeri, però i poliziotti per sicurezza personale da quel momento vanno in giro mascherati e nessuno conosce l'identità dei poliziotti, se non i poliziotti e i loro più stretti familiari. Nessuno è al di fuori di questa cerchia, nessuno è a conoscenza delle reali facce e l'identità dei poliziotti, quindi vanno tutti in giro con una bandana gialla sul volto e alcuni, diciamo i detective, hanno proprio le loro maschere come watchmen, come i vecchi vigilanti, solo che sono poliziotti, come in realtà era all'inizio, perché all'inizio erano, come spiegato nella graphic novel, erano proprio i poliziotti che andavano vestiti da vigilanti perché non potevano, diciamo, non venivano sopraffatti dal crimine e con le leggi non riuscivano a, con un semplice utilizzo delle leggi non riuscivano praticamente a risolvere i problemi, e quindi si mascheravano e andavano a mazzolare i criminali. Qui è un po' una cosa simile. Non è consentito ai poliziotti l'uso delle armi, se non in particolari situazioni dove loro sono concretamente in pericolo di vita. Quando ti hanno già sparato addosso, come in Italia? Più o meno così. Tant'è che c'è la figura di Panda, che è praticamente un tizio con la maschera da panda, che praticamente è il burocrate della situazione. Anche noi carabinieri hanno la panda. Esatto. È il burocrate della situazione che deve decidere e deve dare l'autorizzazione per sbloccare le armi, che sono in speciali fondine comandate in remoto dentro le macchine della polizia. Se non hanno questo comando di sblocco, le pistole non possono essere utilizzate. Quindi non si capisce bene se è una cosa contro l'uso delle armi indiscriminato, oppure si può far capire che, diciamo, mettere le armi sotto controllo è un pericolo per la polizia. Non l'ho ancora capito. Comunque, in ogni caso, in questa situazione ritornano improvvisamente i suprematisti, cioè il Settimo Cavalleria ritorna, e quindi questo comincia dall'inizio del film, del telefilm, pardon, e cominciano a divanarsi le varie sottotrame, tra cui la protagonista, che è questa tizia di cui non ricordo il nome, però ricordo il nome della maschera, cioè Sister Knight, perché è una maschera da suora. Guardi, sta mimando le tette, cioè, una maschera da suora con tanto di rosario che ha appeso in vita, che ovviamente viene utilizzato come arma contundente mortale, una cosa del genere, però è abbastanza simpatica come cosa. Poi c'è Red Terror, Terrore Rosso, che è un tizio vestito da, c'è presente quello da Ferrari, faccio Schumacher, Mariano Ferrari, così, praticamente è vestito così, uguale, qua pistola, è il distintivo. E poi c'è Specchio, che praticamente è un tizio con una maschera a specchio, un po' alla Rorschach, però in realtà è tutta completamente speculare e permette di vedere dall'interno verso l'esterno. Dall'altra parte c'è il Settimo Cavalleggeri, che a loro volta utilizzano le maschere di Rorschach. Attenzione, perché chi ha visto il film e chi ha letto la graphic novel sa che a un certo punto Rorschach lascia il suo diario nella sede di un giornale di estrema destra di cui lui era un sostenitore e lettore, e questa cosa si riaggancia con questa. Devo dire una cosa, Marco, anzitutto mi hai fatto venire in mente un collegamento che non c'entra con Watchmen, però ho pensato questa cosa. Ieri è uscito il trailer finale di Star Wars, l'ho visto, episodio 9. Non vedo l'ora di ascoltare il tuo riassunto. Ma del film o del trailer? No, no, perché del il trailer film, già non me lo ricordo. No, del film, ragazzi. Film, io penso che sarà. Allora io sono molto preoccupato perché hanno già detto che sarà. Un attimo, hanno già detto che sarà lo Star Wars minuti più lungo. 155 di tutta la saga. Vabbè, 150 perché un quarto. No, 140, 145 perché stanno i titoli. Ecco, io non so se ce la puoi fare a fare 145 minuti di riassunto. Posso farne un'ora e dieci, però. No, in realtà io faccio il riassunto delle situazioni imbarazzanti dei film. Purtroppo in episodio 8. Era tutto imbarazzante. C'erano almeno 40-50 minuti di situazioni imbarazzanti. Quindi purtroppo sono venute fuori così. L'altro era le parti normali. Allora, non ho fatto riassunti della puntata di Watch. Mi sono raccontato diversi antefatti. Questa è la cosa curiosità bella, che un quarto d'ora di racconto di 5 minuti di No, ma in realtà sono un po' di curiosità che ho letto oggi su internet. Per esempio, sai cosa stavo guardando? E questa cosa un pochino mi mette in allarme, nel senso che è vero che la serie è HBO e quindi già quello ti porta a delle aspettative elevatissime. Sì. Però devo dire che il voto ad oggi, perlomeno, è medio. Secondo me è medio, vero? Su Rotten Tomatoes, che c'è su anche su IMDb, che però è della concorrenza perché IMDb è di Amazon, non è altissimo. Stiamo intorno ai 7 qualche cosa. Vabbè. Pensavo sul 6, guarda. Perché dalla prima puntata sono quelle puntate un po' che dici che non sai se andare avanti o meno, perché, ripeto, non è brutto, non è stata una puntata brutta, però non riesci a capire se è una cosa che può piacerti o no. Ma infatti ho letto alcune critiche. Però per fare un paragone, The Boys critiche su IMDb ha preso 8.8. Vabbè, comunque in ogni caso comunque in ogni caso ho letto un po' di critiche fatte da giornalisti del settore che hanno visto qualche altra puntata oltre la prima, e hanno detto che comunque effettivamente bisogna resistere le prime puntate, perché le prime puntate sono un po' interlocutorie, poi comincia veramente a dipanarsi l'ira di Dio. Quindi vediamo un po', sono ottimista, però un po' genericamente mortificato sì, perché non è per ora non è un capolavoro, ecco, questo è ma sicuro. Invece cambiamo argomento, ma non tema, cambiamo soggetto. Una settimana fa, quanto tempo è passato? No, credo due domeniche fa, due venerdì fa, perché noi lo abbiamo visto due domeniche fa, non questo, o due lunedì fa. No, vabbè, non stiamo parlando della stessa cosa, perché quello di cui stai parlando tu io non l'ho visto. Stiamo parlando invece di El Camino. È quello che stavo dicendo io. Io l'ho visto la domenica. Ma noi l'abbiamo visto un po' dopo. Ah, ok, noi ok, perfetto. Il tuo plurale maestatis, perché ovviamente non io è preso pizzi, la medicina. Io i pizzi. Oh, e quindi anche di questo ci si può dilettare un pochino a parlarne, perché fondamentalmente che succede? Succede che Netflix ha giocato coi sentimenti. Ha preso una delle serie di telefilm più apprezzate non voglio dire di tutti i tempi, però in realtà degli ultimi 15 anni sì, almeno. Però diciamo che, tolto tutto quello che è HBO, che è un mondo a parte, Breaking Bad è una delle serie che in assoluto è considerata uno dei migliori prodotti televisivi mai realizzati. Il suo spin-off / prequel Better Call Saul, che è un original Netflix, è comunque molto apprezzato, anche se ovviamente non ha avuto la stessa platea. Però attenzione, perché quando prendi una serie che ha già raccontato tutto quello che poteva raccontare e in cui tutti i plot fondamentalmente non c'è nulla da dire, infatti fare un seguito diventa un'operazione rischiosissima, ed è quello che la cosa brutta è che potevi fare un seguito solo su un personaggio, perché gli altri in qualche modo erano tutti sì, è quello il a meno problema. Che non facevi il seguito sul figlio di Walter White, allora, che sarebbe stato imbarazzante. Diciamo che ovviamente ci sono passati tanti anni dalla fine di Breaking Bad, quindi non c'è rischio spoiler, però se ve ne ricordate, Walter lo presumiamo morto perché lo abbiamo lasciato tra ferito cancer, a morte tra cancer e pallottolame. Tra cancer e pallottolame, esatto, l'abbiamo lasciato verosimilmente morto. Sappiamo che più o meno tutti i cattivi importanti avevano subito il loro fato, il loro destino, proprio per la vendetta di Walter, perché Salamanca è stato usato come uomo bomba per uccidere come si chiamava? Fring, esatto, Gus Fring. Sappiamo che i suprematisti ariani, anche in questo caso ci sono i fasci, la supremazia ariana, ammazzati dalla macchina della morte creata da Walter. Sappiamo che anche gli altri plot, bene o male, si erano tutti chiusi. La stronza, che non ricordo il nome, avvelenata con sta cazzo di ricina che si era portata da 4 stagioni. Esatto. Quindi, insomma, l'unico che era rimasto in sospeso era ovviamente Jesse. Che però in realtà era... Tranne quella stronza di Skyler, che se avessero fatto un film in cui torturavano Skyler dal primo all'ultimo minuto, io l'avrei visto più volentieri. Guarda, era una stronza, ma tutto sommato, guarda. Ma tutto sommato era una stronza. No, ma tutto sommato era più sopportabile di tanti altri pezzi. Beh, la sorella... Guarda... È peggio. No, allora, vabbè, la sorella e il cognato, vabbè, un po' così. Paolo cognato, vabbè. Ma guarda, a me è andata su... Cazzo, e quando tu capisci proprio quando un personaggio è stronzo. Primo episodio di Breaking Bad, come si apre, Marco? Tu te lo ricordi? Non me lo ricordo, è passato troppo tempo. Ricordo solo lui che sviene. No, prima però l'episodio per introdurti i personaggi e per introdurti bene o male anche il rapporto tra loro, quindi la loro routine, eccetera. Sostanzialmente la scena con cui nasce Breaking Bad, o comunque una delle prime, nel primo episodio, ci porta in camera da letto. È il compleanno di Walter White. Come festeggiano? Qual è il massimo del calore di coppia? Sudoku. Guarda, se hai fatto spegnere anche il background dicendo sudoku. No, allora Marco, è il compleanno di Walter. Okay. Sono a letto. Okay. Quale regalo la moglie, una calda e affettuosa mogliettina, ti fa per il giorno del tuo compleanno a letto? Il sudoku. Quasi, perché fondamentalmente sudoku, il regalo di Natale, cioè il compleanno di Walter da parte di Skyler è una sega. Ah, ok. Beh, magari lui piace. Ho capito, però tu capisci già proprio le dinamiche di famiglia. Io ho perso proprio la noia, la routine, le cose fatte come atto dovuto. Proprio dice, no, questa, cioè. Ma se non te lo trombi nemmeno il giorno del suo compleanno, devi morire male. Anche perché quello poraccio è un povero uomo, professore di chimica, anche abbastanza, come dire, demotivato, anche molto, come dire, prima della sua trasformazione è anche, come dire, asservito a un sistema di cui lui è vittima. È uno con la testa bassa. E vabbè. Ma lui, vabbè, però, insomma, per aprire e chiudere la parentesi sul fatto che io avrei visto... Erano male, un po' tutti e due così poi alla fine, eh. Però insomma sì per carità. Però sai che proprio non l'ho digerito il suo... Poi per carità, personaggio riuscitissimo, perché che non dovessero digerirlo gli spettatori faceva parte del copione, quindi gli è venuto bene. Però diciamo, tornando, tolta lei, che ovviamente alla fine nella serie non ha un ruolo centrale, l'unico che era rimasto di cui cercare di raccontare qualcosa era Jesse. Paolo Jesse, esatto. Il problema è che dovevi anche metterci dei personaggi di contorno, e quindi non c'erano molte strade, dovevi pescare tra quelli che erano rimasti in vita nella serie. E poi flashback come se non ci fosse un domani. E poi flashback e fanservice come se non ci fosse un domani. Chi ripeschi? Ripeschi Todd. Per gli amici, Matt Shemon, perché è un po' il fratello brutto e scemo di Matt Damon, che era praticamente il nipote del proprietario di quella specie di cos'era, di sfascio di attività, dove sostanzialmente c'erano i neonazisti che poi hanno anche rapito Jesse per fargli spacciare, produrre la metanfetamina, no? Sì, quindi lo fanno diventare protagonista di tutto un arco narrativo un po' anche noioso. No, ma la cosa brutta è questa, che hanno cercato più o meno di non far notare il passare del tempo, perché El Camino si colloca esattamente nei giorni della fine di Breaking Bad. O addirittura prima. Perché in una parte ti fanno vivere dei momenti di quando Jesse era imprigionato. Esatto. E c'è spesso questo Todd che praticamente approfitta del fatto di avere una sorta di schiavo a disposizione e fargli fare delle cose che non racconteremo. Il problema è che questo Todd, rispetto agli anni di Breaking Bad, si è imbalsito, si è ingrassato, si è devastato, e quindi rendere il personaggio è stato veramente difficile, tant'è che la spiegazione che qualche fan ha provato a dare era che quelli erano i ricordi di come Jesse si, diciamo, si ricordava fossero andate le cose, e quindi la visuale, la visione di Todd era distorta dal ricordo di Jesse. Vabbè, questo è poco... Ma è che tutta questa teoria è una cosa distorta dall'idiozia, diciamo, perché alla fine, se non l'hanno giustificato gli sceneggiatori, cioè non dà gli giustificazioni perché non ce ne sono. Ma esce lì la cosa. Poi hanno ripescato una scena completamente inutile di Walter White, tra l'altro, che alla fine un po' inutile era, insomma. Allora, devo dire, io sono piuttosto d'accordo con Stefano in chat, che dice: El Camino è sopravvalutato proprio come Breaking Bad. Mi dispiace dirlo, ma è così. Ma El Camino non so quanto sia sopravvalutato, perché io non credo che, come dire, non c'è qualcuno, non credo che ci sia qualcuno che lo sopravvaluti. Esatto. Invece, sul fatto che Breaking Bad sia un po' sopravvalutato, io sono d'accordo. È una serie che mi è neanche, come dire, appassionato, l'ho seguita volentieri. Però è una di quelle opere osannate in maniera così, diciamo, universale, secondo me, senza un vero perché. È anche certe cose sono un po' forzate, perché a differenza di Better Call Saul, che io ho sempre detto trovo molto più verosimile, perché in quella serie tu vedi la parabola discendente di un personaggio, di una persona che nasce mediocre da un punto di vista proprio dell'etica, e, diciamo, nel suo percorso di mediocrità a un certo punto fa una serie di compromessi con la vita e diventa un po', tra virgolette, un faccendiere di dubbia moralità. Era male. Che ci può stare, insomma. Ma in Breaking Bad abbiamo questo personaggio di Walter White, che è, diciamo, l'umile, modesto e sottomesso professore di chimica, che a un certo punto non è che semplicemente svolta iniziando a produrre della droga, praticamente arriva ad un passo da diventare un boss del narcotraffico. Mi sembra una parabola esageratina. Ma non tanto, perché tu devi pensare che lui la testa ce l'aveva, ma solo per varie situazioni tranquillate anche dei suoi soci, finisce praticamente in una situazione di mediocrità. Perché sì, lui alla fine. Però tutto si basa su un fatto. Tutto si basa, sul fatto che lui riesce. Deve a... morire. No, aspetta, dico. La sua parabola, il suo successo criminale si basa tutto sul fatto che lui, a differenza di qualunque altro chimico sulla faccia della terra, riusciva a produrre questa metanfetamina eccezionale. Ma lui era effettivamente un chimico contro cazzi, eh? Ma non sto discutendo questo, però dai, io non è che sia esperto in materia, ma non è che lui avesse la ricetta segreta della Coca-Cola che nessuno riusciva ad imitare, dai, cioè. Però insomma, questa è una cosa particolare che viene data ci sono tante situazioni in cui alcune situazioni sembrano strane, però sono necessarie anche per far funzionare, insomma, il personaggio della storia. Lui a un certo punto sa che deve morire, scrupoli zero. Lui ha una vita che si fa di scrupoli, a un certo punto vaffanculo, morite tutti, e ci sta. Non lo so, mi sembra. Io sono. Allora, parto da un presupposto, Marco. Io trovo che se nasci tondo non puoi morire quadrato. Sono convinto che l'indole con cui nasci e con cui a un certo punto, come dire, conformi il tuo modo di essere, che è qualcosa che secondo me si sviluppa nei primi anni di vita, dopo non lo cambi più. Lo puoi, come dire, ci puoi scendere un po' ma a patti in alcune circostanze. Chi te dice che l'indole sua di genere non fosse quella? No, è uno remissivo. È remissivo perché lui, magari in quelle situazioni era arrivato a un livello proprio di mediocrità. Guarda, io non dico massimo. Puoi anche però comunque non bevo neanche parlare di Breaking Bad, perché sono passati 10 anni. Io vorrei parlare del Camino. Che possiamo dire del Camino? Allora, di quanto sia utile questo film. Allora, avete presente un culo senza dire? Buco? Un buco di culo su gomito, come per citare Kill Bill. Allora, è un telefilm che praticamente tu lo vedi e appena hai finito di vederlo dici: sì, vabbè, ma quindi? Cioè, esatto, non c'è un quindi, è un effetto nostalgia, nel senso. Ma neanche che effetto nostalgia, perché ha fatto tutto tranne che effetto nostalgia, perché a me deve sapere che Pinkman fa A, B e C per arrivare nel Molise, perché lui ovviamente poi fugge nel Molise, Ma rega, cazzo, cioè non mi stai mettendo, mi stai di niente. Marco, mi permetti di, siccome ovviamente qui abbiamo un parere autorevole di Lobby, no? Quindi che sicuramente, diciamo, di psicologia umana ne sa molto più di me. Dice: Walter White è sempre stato cattivo. E questa è una chiave di lettura che posso anche condividere. Per quanto, ripeto, la sua sottomissione generale al mondo fino al momento, diciamo, della presa d'atto di... Ma perché lui probabilmente ad un certo punto aveva detto: mi sono rotto il cazzo, sono stato inculato quello, sono stato inculato da quest'altro, o ammazzo tutti oppure faccio finta di niente. Poi quando a un certo punto ha visto che faceva qualche cosa anche di estremo per fare i soldi, per fargli fare i soldi a dare un minimo di futuro alla famiglia, oppure sarebbero andati tutti quanti a scarafascio, quello scrupolo che si faceva, che si era costruito, è andata tutta a puttana. Partiamo dal presupposto che lui inizialmente lo fa per dare un avvenire alla famiglia, sapendo di dover morire, quindi anche all'inizio, anche c'è una certa moralità. Nell'evento, diciamo, delinquenziale, sta, lui cerca sempre sta vende droga, c'è metanfetamina, sì. non hashish, se sta vende metanfetamina. Sì, no, quello per carità. Perché noi non l'abbiamo visto, ma ci saranno persone che ci sono morte, tra virgolette. Certo, vabbè. Ma no, la sua era buona, come? Era talmente esatto, fatta bene. Che non muore nessuno, fa bene alla salute. No, va bene, no, però sai, lo scopo di un buon commerciante è non perdere acquirenti, no? O farne di nuovi. Vabbè, anche però, anche quello, tanto so. Oh, tra l'altro Lobby dice: la gente cambia, fidate Walter. Io, per carità, io credo che la gente sia, diciamo, alcuni siano bravi ad adattarsi al contesto. Poi ripeto, non mi voglio, cioè non voglio provare, come dire, a fare un ragionamento su un piano che non mi compete. Però non lo so, la mia, basandomi solo sulla vita vissuta, io in tante occasioni ho visto che persone che dimostravano di facciata di essere cambiate in certe circostanze, per certe situazioni, poi alla fine andavi a scoprire che sotto sotto erano come perché le avevi sempre conosciute. Tu parti da un presupposto che il personaggio di Walter White lo vedi quando è alla sua fine, tra virgolette, ma lì magari potrebbe essere quella la fase in cui è cambiato e ha deciso di fare una vita mediocre, anche se in realtà poi ci si è rintrovato invischiato. Beh, quando no, perché la Walter White, come l'abbiamo conosciuto, era uno che seguì, era il risultato di una vita di mediocrità, cioè lui era professore di chimica, no, sottomesso, preso all'inizio, faceva parte di quella società che poi alla fine incula con gli altri due soci, perché poi alla fine gli incula, ma anche lì è stato inculato, cioè lui ha creato inculato. Questa società perché aveva queste doti, esatto. Però lui che doti, cosa fa, diciamo, lui è uno che ha, ma uno che comunque lui le regole le ha sempre volute seguire. Quando decide di non seguirle più, scrupoli zero, cioè lì il suo vincolo era appunto essere ingabbiato in determinate regole che sono quelle della società. Smettendo di seguire quelle hai liberato il mostro praticamente, tant'è che lui lo dice: fatto a me perché mi piace, infatti io lo facevo perché mi piaceva, perché mi faceva sentire vivo, cioè alla fine, a un certo punto. Vabbè, a quel punto sì, erano saltati tutti i freni inibitori, tanto comunque devo morire. Vabbè, ecco. Comunque torniamo a bomba, anche a bombetta, e Camino, ecco, un simpatico film di cui non sentiremo la mancanza, ma neanche di cui sentiremo la necessità, volendo, insomma. Tecnicamente è un brutto film? No. No, vabbè, anche perché ci sono tutti gli ingredienti base di Breaking Bad, assolutamente è fatto bene, la stessa tecnica di regia, quindi anche dal punto di vista fotografico tutto sommato, a parte alcune scene che secondo me sono un po', facciamo che ci abbiamo 5 minuti, 2 minuti, che ci dobbiamo fare? Mettiamo questa scena con questa inquadratura così. Alcune cose sono un po' pretenziose, tanto per. Brutto film? No. Ti racconta qualche cosa? No. No. Serve a qualcosa? No. È fan service che forse Netflix sperava servisse ad aumentare la popolarità, però io credo che quando fai questo tipo di operazioni poi ti si ritorcono contro, perché si crea un'aspettativa enorme che poi viene inevitabilmente. Apriamo una parentesi. Noi che abbiamo visto Breaking Bad quando praticamente è uscito, io mi ricordo un cazzo di quello, cioè ci sono 10.000 riferimenti a situazioni, cioè, ma per questi che cazzo confesso sono? Confesso che io Breaking Bad, ti devo dire la verità, quando è uscito, proprio perché c'era questa esaltazione nauseante, ho deciso, diciamo, in maniera assolutamente ponderata di non vederlo, un po' come non, lo stesso motivo per cui io per adesso non ho visto Joker. Poi quando le acque si calmano e la gente si mette a parlare d'altro e quindi non sei costretto a fare anche tu lo yes man, il fan service o in altra alternativa il bastan contrario, poi le cose io me le recupero con calma e tra virgolette a bocce ferme riesco a vederle con un po' più di obiettività. Breaking Bad in particolare me lo sono visto a raffica quando è uscito su Netflix, quindi diciamo un po' di ricordi vividi ce li ho, anche se, essendo passati 2 anni o 3, non ricordo, ho comunque dovuto rileggermi alcuni retroscena per collegare gli elementi che mi mancavano con il camino. Quindi qualcosina. Ci sono se tu guardi solo il camino, per dire, non ha senso. Cioè, se tu dici, beh, vediamoci sto film, non è, diciamo, completo da quel punto di vista. Ti mancheranno comunque sempre dei pezzi che, se tu non sei un fan e non hai visto Breaking Bad, non li capisci dentro quel film. Cioè, quello è proprio. Assolutamente. E il camino non è un film che puoi vedere senza. Da solo, cioè, non c'ha senso. Anche dopo aver visto Breaking Bad, non c'ha senso. Figuriamo se senza vedere Breaking Bad, quanto senso possa avere. No, anche perché, anzitutto, non coglieresti i flashback. Perché il film parte. Beh, io credo che lo possiamo dire che ci sono flashback di almeno di 3 personaggi che hanno avuto un ruolo importante per motivi diversi nella storia nella vita di Jesse Pinkman, e che sono tutti personaggi che nell'arco narrativo di Breaking Bad sono morti, quindi sono riapparsi. C'è a titolo anche Jessica di fanservice Jones, è uno dei 3, perché anche Jessica Jones, la ragazza con cui è stato tanto tempo Jesse, che tra l'altro è stata una delle prime, forse la prima vittima in assoluto di Walter. No, perché no? È quello che hanno sciolto nell'acido? Molto prima. Vabbè, personaggi con cui hai empatizzato, quello sciolto nell'acido era quasi de passaggio lì. Era lì soltanto quasi per dare l'idea del mostro in cui si stava trasformando Walter. Mentre invece la ragazza non di Jesse, beh, era qualcuno era con fatta cui volontariamente, però neanche, cioè, si è trovato lì, l'avrebbe potuto salvare. In realtà non andare lì per ucciderla, come sbaglia. No, lui è andato lì. Si è trovato, visto che questa si è vomitata. Ha detto, la salvo. No. Si è vomitata, stava morire di vomito. Sì, ok, dai, sai che c'è. 70 minuti. Faccio cazzo. Guarda, mi leva il problema di questa che rompe il cazzo a Pinkman e mi toglierò lo spacciatore. Certo, esatto. Quindi c'è questa cosa, però tutto sommato. Quindi insomma ci sono i flashback di lei. Poi inutile, però. Tanto è tutto inutile, cioè il flashback di lei è inutile, ma è tutto inutile lì. Però quello è un flashback brevissimo, perché veramente appare per mezza scena e forse non dice neanche una battuta. No, parla, come no? Molto poco. Dice cazzo. Però diciamo, quello era in un certo modo quasi la coscienza di Jesse. Poi appare Mike Ehrmantraut all'inizio. Chi? Ah, sì, Mike sì, sì, Ehrmantraut, sì, sì, l'ex killer, diciamo, il faccendiere che ha collaborato per tanti anni sia con Saul che con lo stesso il braccio armato, insomma, sì. Sì, esatto. E poi ovviamente non credo che sveleremo, diciamo, chissà quale segreto di Pulcinella. In un flashback specifico appare anche Walter White. Attenzione, sono scene girate ex novo, quindi non sono immagini di repertorio rimontate sul film, sono scene girate appositamente per il camino. Quindi infatti Mike è invecchiatissimo rispetto al camino pure, cioè, che già era vecchio, però. Ma Mike è una mummia, cioè non. Sì. Però insomma, proprio si sta invecchiando sempre di più. Vabbè, raga, cioè, tutto sommato sono passati sempre 4-5 anni, insomma, quando c'è una certa si vedono. Lobby dice vado a bevere qualcosa buono il camicchio. E allora, se ti è rimasto un goccino di birra, andate, volevamo bevi. Fare un brindisi alla salute dei lobby frontali, glielo faccio io. Auguri, slanci. Attenzione. Lobby dice sarò impopolare, non necessario, ma non mi è dispiaciuto affatto. Io ho visto fanservice fatti proprio a fanservice, che caminchio, levati proprio. Beh, comunque dietro c'era il manico di Vince Gilligan, che non è proprio l'ultimo degli stronzi, se possiamo dirla così. Però come giustamente tu dici, infatti dicevo che non è brutto. Non era necessario, cioè no, è una non cosa è brutto è perché una cosa che non ti aggiunge un cazzo, cioè non serve, esatto, a niente. Esatto, il problema è questo, non c'era una storia da raccontare. E quindi questo espediente narrativo su cui si basa tutto il film, che sono solo dei pretesti per farci vivere i flashback delle cose successe a Jesse, per poi farci avere l'epilogo, il vero e finalissimo epilogo della sua parabola, perché fondamentalmente ci racconta 3-4 giorni in più della vita di Jesse rispetto alla serie precedente, tutto lì. Ah, poi c'è l'attore, quello che l'attore, uno degli attori e fetici. Poi c'è, sì, c'è Robert Forster che era The Man, che era, diciamo, quello che faceva dava lo sparitore di uomini, che non era uno che li faceva sparire in senso definitivo, era uno che ti dava una nuova identità e ti faceva sparire dai registri, esatto. Quello a cui si è rivolto Saul Goodman prima e Jesse poi, salvo poi ripensarci. Esatto. Se vuoi ripensarci, se faccio di averci ripensato. Esatto, tant'è che lui praticamente, buonanima, non facciamo un coccodrillo, ma immaginate che lo stiamo facendo. L'attore che interpretava The Man, quindi Robert Forster, 3-4 giorni dopo l'uscita di El Camino, ha visto il film su Netflix, gli è preso un coccolone ed è morto. Poverino, sì. Vabbè, sono cose che succedono. Succede a tutti, può succedere a tutti, insomma, prima o poi. Mi auguro quindi, prima a voi che a me, però insomma può succedere. Sempre più tardi possibile. Allora, che cosa è successo poi questa settimana? Poi direi che fra un po' ce ne andiamo perché siamo all'ultima ronda. Sì, sì, basta, cioè, finita la birra, che restiamo a fare? Allora. Aspetta, cosa tu trovi vai nei nostri archivi? A parte dovremmo parlare della collaborazione sempre del nostro amico Trump. La collaborazione, io non lo sapevo, sai che cioè, gli Stati Uniti e Roma e l'Italia collaborano da migliaia di anni, questa cosa dai tempi dell'antica Roma. C'è una cosa incredibile, io non me lo sarei mai creso. Però scusami Marco, se facciamo così tu mi devi dare atto che dobbiamo necessariamente America, ci sta bene l'esplosione. Allora, lettera del presidente degli Stati Uniti Robert Redford, Donald Trump. Beh, farisei. Forse è meglio Donald Redford, lo sai? Robert Redford. Rispetto a Trump. Oh, ma sicuro, Robert Redford è una gran persona, cioè è un attivista politico di un certo calibro. Cioè, insomma, nel telefilm lui fa gli incentivi per i risarcimenti ai gente di colore che ha subito dei torti. Beh, invece ti persona. Ricordo che in Avengers è anche un discreto disgraziato Robert Redford, eh? Oddio, che faceva? Il vicepresidente, non ricordo. Che quello che faceva praticamente la cosa per i mutanti. Che sì, sostanzialmente, okay. Sì. Dunque, lettera del nostro caro benemato Trump a Erdogan. O Erdogan. Non fare il duro, non fare lo sciocco. Questo ha scritto una lettera. Cioè, questo gli ha mandato la lettera e ha detto: non fare il duro, non fare lo sciocco. Aspetta, no, questa è la lettera che ha mandato a Trump, cioè come dice chiaro signor presidente, penso a me. Lavoriamo a un buon accordo. Tu non vuoi essere responsabile del massacro di migliaia di persone, giusto, no? Quando mai? Veramente sì. E io non voglio essere responsabile della distruzione dell'economia turca. Guarda, magna tranquillo, perché te ne ho dato un piccolo esempio con quanto accaduto con il pastore Branson. Che cazzo è il pastore Branson? Richard Branson. Non so, Branson, non c'ho idea. Praticamente, no, aspetta, Branson. Branson, non lo so, vabbè. Il presidente americano è la prova che gli USA non hanno dato alcun via libera all'operazione. Cioè, praticamente, se lui ti manda una lettera e ti dice: brutto stronzo, però prima ti faccio fare quello che te pare, vabbè, significa Marco, che io non è colpa mia. Sì, ma tanto c'è da dire una cosa: che a un certo punto americani, russi, eccetera, hanno fatto il loro magna magna, si sono messi d'accordo, hanno risolto diplomaticamente la situazione. Notizia di oggi: chi se l'è presa nel culo, come al solito, sono i poveri curdi. E vabbè, ma. Battere la piander curdi, come si dice. Ragazzi, no, veramente questa è l'ennesima. Io non riesco a non solidarizzare con tutti quei popoli a cui viene tolto il diritto di vivere la abitare la propria terra d'origine con la con scuse, diciamo, sempre come dire, sempre grottesche. Non voglio citare altre, diciamo, altre situazioni, però è chiaro che mi riferisco a quella la striscia di Gaza, quelle zone là dove in nome di democrazia, beh, non meglio definita, cristiana, un popolo no, distrutto. Democrazia ebrea. E sì, comunque, vedete la replica del governo turco. Ha detto la lettera che ci è stata gentilmente inviata dal presidente Trump è stata gettata nella spazzatura dal presidente turco. Vabbè, ma questa no guarda, per una volta. Ha fatto una cosa. Sì, ma ti devo dire la verità che forse l'unica volta in cui potrei essere d'accordo con Erdogan. Sì, però poi dopo ha lanciato come si dice, l'operazione militare contro i turchi, i curdi praticamente, cioè, ok, per risposta, per fargli capire che ho letto la cosa, andiamo a ammazzare i curdi. bravo, belle cose, sono veramente belle cose, bravo Erdogan, bravo, se proprio così si fa. Niente, vabbè, che altri colpi di scena ci ha regalato Trump? Perché in questo periodo veramente a cacciare fuori. La cosa divertente è stata quando ha dichiarato appunto che l'Italia e gli Stati Uniti sono alleati fin dall'antica Roma. dei tempi di Roma, sì, che noi siamo forti, gagliardi e tosti. Certo. No, ma proprio questo dimostra proprio allora, l'essere fuori di testa. C'è la traduttrice di Mattarella che faceva delle facce. Ma che cazzo gli dico, ma questa, cioè? Ma no, mo gli posso. Mattarella, mo gli posso dire che questo ha detto che siamo alleati da migliaia di anni? Ma che cazzo dice? Ma imbecille, questa mi licenzia. Hai capito male? Io ti dico. Hai capito male? Cioè, non puoi. Però secondo me Mattarella un po' d'inglese o mastica, quindi secondo me stava lì e faceva mortacci tua, cioè io sono venuto qua per allontanarmi dai stronzi e c'ho questo capo di stronzi capo di stronzi americano. Porco, cioè niente, non c'è, questo povero Mattarella non c'ha modo di scappare dai stronzi, è una cosa incredibile. Circondato, ma mi ricorda Lord Casconero, esatto. Questo, circondato da stronzi. È più o meno sì, però stessa. Nel caso suo secondo me è più circondato da coglioni, che a volte è anche peggio. Che poi Trump, se ci pensi, no? Se facessero il concorso per chi è più coglione, arriva secondo. Quella è una cosa. E sapete perché arriva secondo, amici in chat? Perché è troppo coglione. È vero. Profondo, però. Comunque è girato su internet la cosa del presidente Mozzarella. Era una bufala. Sì, quella assolutamente è stata smentita da più fonti, ribadiamola anche noi. Tra cui non dobbiamo fare il debunker, però diciamo, esatto, era una bufala. Tra cui i produttori di mozzarella di tutta Italia. Cioè, quindi non c'entra nulla. Presidente era... Cosa? Vedo. Presidente Mozzarella era una bufala. Esatto, vedi, hai capito la battuta con un po' di distacco e un po' di inquietante. Era una bufala. Mi è sceso il gelo lungo la spina dorsale, deve essere l'effetto di una bevanduccia che ho assaggiato all'inizio. Sì, dobbiamo prendere un po' più di lisi. Secondo voi quelli di sidra ci fa bene? Sono arricchisce i capelli. Fa bene la pelle, fa bene i capelli. Oppure sono le sopracciglia che te sono allungate fino alla nuca. No, sono peli pubblici che si sono allungati. Ah, ok, quasi. C'è qualcosa che è strano in questa bevanda che sta di sote de cozze. Vero, vabbè, non ti ripeto, non facciamo. Vado a leggere. Salvini resta fuori dallo stabilimento AMA. Mica siamo a Fort Knox, dice. Vabbè, sti cazzi. No, e sai che c'è? Se entrava, come ha detto qualcuno su Twitter oggi, se metteva piede dentro lo stabilimento AMA rischiava di finire nell'umido immediatamente. Quindi vero. C'era anche questo rischio. Sì. Brexit, finirà mai? Ragazzi, la Brexit è un'altra batosta presa tra l'altro in questi giorni da Johnson, perché fondamentalmente ha dovuto mandare, ovviamente è andato in minoranza, è andato sotto in Parlamento e quindi si è dovuto adeguare al fatto che la volontà della maggioranza parlamentare sia stata quella di chiedere un rinvio della Brexit, se non ricordo male, al 30 gennaio. Quindi ha dovuto mandare una lettera all'Unione Europea. Che non ha firmato. Esatto, in cui faceva questa richiesta. La cosa bella è che siccome un rosicone, non solo non l'ha firmata, l'ha mandata quindi apocrifa, ma dopo ha mandato anche un'altra lettera, diciamo, come dire, in addendum, una sorta di, come dire, di appendice, di post-scritto, dicendo comunque per me è una cazzata, e quella l'ha firmata. Insomma, che vedevo di sta Brexit veramente, cioè, come rendersi dopo una storia millenaria tutto sommato di un certo rilievo, cioè l'Inghilterra conquistata, Compagnia delle Indie, tante belle cose, come rendersi ridicoli in pochi anni? Ma veramente, cioè, lì dici, ma che cazzo stanno a fare questi imbecilli? Cioè, vogliono stare in Europa, ci vogliono uscire, se menano tra di loro. Scusa un secondo, decidetevi. Dice Davide Gatti, è sparito l'audio. Davide, ci senti? O siamo spariti noi? No, perché io vedo tutto operativo. Zio dice che ci sente. E allora Davide che è sparito. Davide, purtroppo hai perso l'udito. Questo dovremmo dire. Te lo scriviamo in chat a sto punto. Scrivilo: hai perso l'udito. L'udito a posto. Mi dispiace per Davide. Insomma, è una così brava persona. Però tutto sommato può restare sempre una brava persona anche senza udito. Comunque, in ogni caso, io direi che a questo punto andiamocene, perché mi sono rotto io. Sì, mi ha fatto un po'. Ma guarda, io il bagno non trovo presto, eh? Perché mi sento un po'. Capito? Non so, forse è caso di salutare. Va bene, allora approfittiamo come al solito, prendiamoci un minuto per salutare tutti gli amici che ci hanno fatto compagnia in chat quest'oggi. Un minuto di. Abbiamo di silenzio? No, non so. Cioè, ah, no. No, volevo vedo se c'è un coccodrillo al volo, tu intanto parla. No, volevo salutare quindi Zio Misi. Ce la farò dopo tutta questa vira. Ecco, vi do una brutta. L'abbiamo trovata? Non è un coccodrillo, è una pseudo brutta notizia. perché... ma serve una musica, aspetta. No, in realtà fammi aprire la scheda, perché cioè, sono i titoli sensazionalistici de merda che... Allora, vediamo un po'. È finita la birra. No. Sembrerebbe che il sequel di Joker sia già in fase di sviluppo. Sembrerebbe. Chirico, che cazzo de... che... ma perché dovete fare un seguito di un film che di per sé non può essere seguitato. Seguitato, o meglio, legato poi a quello che è il mondo di Batman, perché ci dovrebbe avere 70 anni. Cioè, non... vabbè, questo le timeline reali. Sì, su queste... ma cioè, sono talmente. Non puoi. Però, cioè, non a proposito, Marco, volevo effettivamente fare una divagazione sul tema di Joker, ma me l'ero persa strada facendo perché non l'avevo scritto sulla scaletta. Ma quanto ha rosicato Jared Leto? Ne vogliamo parlare? Ha rosicato un pochino, perché sembrerebbe che abbia cercato nell'ordine bruciato le ruote del produttore, tagliato le gomme del regista del film, cercato di stuprare e violentare tutte le componenti femminili del capo della cazzo l'ha prodotto la Paramount. Che cazzo l'ha fatto? Oddio, non lo so, però ascolta, aspetta. Era DC probabilmente. DC, quindi la Warner. La Warner. Allora, facciamo un preambolo. Jared Leto è stato il Joker della Suicide Squad. Apro un preambolo su preambolo. Ora, secondo me uno dei peggiori. Allora, qual con è il tutto problema? Che lui si è impegnato. Esatto, lui è convinto di aver fatto un'interpretazione che Heath Ledger e Jack Nicholson scansate. Esatto. In realtà non è proprio così, e il film in generale non è che sia andato così bene, tant'è. Non è, secondo me non è neanche colpa sua. No, perché per lui, allora lui è, io ripeto sempre, mi dà sempre l'idea di quello che ci prova veramente con tutte le forze ed è anche bravo, potrebbe essere anche bravo, ma è completamente fuori parte. Non tanto per colpa sua, ma per come viene disegnato il personaggio. Allora, intanto facciamo un preambolo tecnico per chi non conoscesse la Suicide Squad, c'è un piccolo problema, tant'è che l'ha fatto presente anche James Gunn, che sta lavorando al seguito. E cioè? In Suicide Squad The Joker non c'è. No, non c'è. Quindi già questo, diciamo, era come dire un'anomalia. In tutto questo, no, non c'è, perché la Suicide Squad teoricamente sono criminali e non c'è il Joker. Non include Joker. La Suicide Squad non include Joker. Esatto, perfetto. È stato aggiunto nella versione cinematografica per fare, come dire, richiamo. Ora, cosa è successo? Anzitutto deve uscire lo spin-off, che se non ricordo male si chiama Bird of Prey, che praticamente è il gruppo di criminali donne su Harley Quinn. In realtà no, sono proprio su un gruppo di criminali donne, su cui praticamente la figura di Harley Quinn spicca su tutte, perché prende il comando di questo gruppo improvvisato de... In questo film è stato detto: guarda, sì, Jared non ci sarai. È già un pochetto da rosicato, però insomma ancora lì se teneva. Quando poi gli hanno detto: guarda Ciccio, ti dovevamo dire due cose. La prima è che in The Suicide Squad, che sarà il seguito, non si è ben capito se il seguito è un reboot o cosa, te non c'è sei, non c'è proprio Joker. E non soltanto, sappi che abbiamo contattato Joaquin Phoenix per girare il film monografico su Joker. Sì, anche perché e lui è impazzito, apriamo una parentesi. Seguendo la trama di quel Joker, non avrebbe avuto nessun senso che fosse giovane. No, tra l'altro. O meglio, poteva anche esserlo, ma se sarebbe venuto a cozzare con la Suicide Squad. Tra l'altro, la timeline era impossibile. In cui si basa, o c'aveva 10 anni. No, ma non erano. Cioè, erano proprio due universi paralleli. Non erano proprio inconciliabili le due cose. Fatto sta che poi è venuto fuori che ci sarebbe stato appunto il nuovo Joker di Phoenix. E Jared Leto ha sbroccato, ha tentato in tutti i modi di impedire, non so bene, ha chiamato sceneggiatore, ha chiamato produttore, addirittura il suo manager musicale, addirittura cioè, vai per tu, cercare anche di tu fermare la produzione del Joker di Phoenix, che poi tra l'altro anche lì è venuto fuori che per l'ennesima volta un Joker di altissima fattura. Io non l'ho visto, però oggettivamente tutti stanno parlando benissimo dell'interpretazione di Joaquin Phoenix, a me sto facendo il cazzo, però vabbè, l'altro discorso. E quindi per l'ennesima volta un Joker migliore di quello interpretato da Jared Leto. Allora, Jared Leto ha interpretato un ottimo schizofrenico, criminale matto, che però non è Joker. Cioè, il problema di quel personaggio, per come è stato disegnato, è che non era Joker. Cioè, fondamentalmente era uno schizzato, uno qualsiasi. Cioè, non lo prendeva proprio. Cioè, lui ha fatto un'ottima interpretazione, secondo me. Ma non era quello che doveva. Cioè, non era il Joker. C'è troppo un cazzo. Allora, mentre Peppe Rizzo ci dice, ragazzi, fa un culo Jared Leto, Margot Robbie l'ha oscurato. Ha oscurato qualsiasi cosa anche all'interno di. C'era una volta Hollywood dicendo 5 cose. Tra l'altro, basta anche facendo vedere i piedi. Allora, intanto sì, lei sì, lascia il segno, però devo dire, in un contesto in cui a me, francamente, Suicide Squad proprio non mezza cagata. In maniera particolare, quindi. Però al di là di questo, sul discorso che ok, il Joker non è il Joker, in realtà io ormai ho imparato una cosa, e cioè le linee temporali e le linee, diciamo, di riferimento di tutto il mondo di questi enormi universi fumettistici, tanto quello DC che tanto quello Marvel, hanno tante varianti, sono multiversi talmente estesi che tutto è lecito. Tutto fa regola a sé. Tutto è lecito fino a un certo punto, perché se tu c'hai oggi 45 anni e il tuo nemico, tra virgolette, adesso ce n'ha manco 10, cioè poi quando ti scontrerai con lui tu ce l'avrai più di 60. No, ma anche, cioè, anche lì l'età anagrafica non ha mai è mai ridicolo, non dai, è mai rappresentato, cioè, capito? Ma tu non devi, secondo me non devi contestualizzare, non devi diciamo, nei film ispirati alle saghe dei fumetti non puoi aspettarti realismo di nessuna verosimiglianza, no, con la realtà. Se tu fai un film come Joker, dove c'è troppa, pure nel senso che c'è molta poca parte fumettistica, c'è molto, cerca di raccontare quella che è la malattia mentale, secondo me lo fa anche, allora, decentemente, a volte anche, Marco, in maniera troppo, come posso dire, non banale, perché lo fa bene, però in maniera pedissima. Provo a farti un parallelo, Marco. Anche la trilogia di Batman del Cavaliere Oscuro di Nolan, no? Che, diciamo, di supereroistico in senso e di fumettistico c'ha molto poco, nel senso che lui ha scelto Sono d'accordo, una, però, molto, non è che una puntata c'ha anche Bruce Wayne che c'ha 30 anni, nella puntata dopo c'ha 35 anni e quello che è il bambino che c'aveva 5 anni ce n'ha 28. Cioè, non è così che funziona. Ma no, capisci? Ma infatti, se tu ci fai caso, anche se da un punto di vista della ricostruzione, diciamo così, dei costumi sembra questa cosa poco evidente, il lasso di tempo che intercorre tra The Dark Knight e The Dark Knight Rises, quindi dal secondo al terzo film, dico bene i titoli? No, il primo era Batman Begins, ok. Il secondo è il Cavaliere Oscuro, Oscuro e il terzo è il Cavaliere Oscuro, il Ritorno. Il Cavaliere Oscuro se ne va. Comunque, tra il secondo e il terzo film, anche se non te lo fanno capire bene, trascorrono parecchi anni. Eh sì. Bruce Wayne sparisce da Gotham, 10 anni, 15 anni, non è chiaro, perché visivamente non cambia niente, non cambia più di tanto neanche lui. Ti fanno capire che è invecchiato perché c'ha il bastone, è mezzo decrepito, perché deve utilizzare dei tutori quando si mette l'armatura da Batman, perché è pieno di fratture, di danni accumulati. Però effettivamente loro stanno cercando di dirti che il lasso temporale è variabile, ma è ampio, anche in una versione di Batman verosimile. Però non ci siamo, ripeto, se non c'è neanche 10 anni, poi ce n'hai, tu ce l'hai già 45, quando poi ci sarà uno scontro realistico, a meno che non fai Batboy, ci avrai un vecchio, un pensionato da una parte e un ragazzetto dall'altra. Anche lì le spiegazioni sono potenziali, sono tantissime. Ma non c'è un solo in un Batman, film dove cerca certo di essere in un film dove cerchi di essere perfettamente realistico, perché Joker è fatto in modo che sia realistico, non ci stanno cose fumettistiche. Poi a un certo punto, la cosa successiva, mettiamoci le peggio cazzate. Non ci siamo. Ripeto. Cioè, io sono già fare un seguito, ripeto, già fare un seguito di un film che tu cerchi di dare un'impronta realistica, poi lo fai un seguito mettendoci i cattivi a cazzo di cane così. Guarda, ti dico, Marco, io sono sputtani molto tutto. Sono esageratamente e fastidiosamente pignolo sulle trame di molti film e, diciamo, cerco sempre il pelo nell'uovo. Né in quelli tratti dai fumetti ho imparato subito, già guardando i primi film del continuum della Marvel, che non si poteva proprio andare a cercare nessun elemento di verosimiglianza, somiglianza. Allora, realtà, tu vedi il Joker e poi dimmi se ti puoi aspettare delle puttanate del genere dopo che ti sei visto il Joker, perché dovresti cambiare completamente il tipo di film. Allora, se cambi completamente il tipo di film, ci metti in mezzo Ras al Ghul, ci mette la pozza di Lazzaro, ci mette le peggio che puttanate fumettistiche, allora posso dire va bene, ok, ma se tu vai, fai un film che cerca di essere coi piedi per terra e mi fai un seguito senza, se, cioè senza buttarla in caciara, però vedi, io ti faccio anche un esempio, Marco. Tu diciamo così contesti il problema anagrafico, no? E dici cazzo, sì. Quando Batman e Joker si scontrano, un Batman diciamo verosimilmente ventenne, 25enne si troverebbe a scontrarsi con un Joker 60enne, più o meno, sì. Ok, ma non è che se prende una sganassoni, quindi la questione soltanto in alcune accezioni particolari di Batman vanno alle mani, ma Joker e Batman tendenzialmente non è che si prendono una sganassoni in faccia, utilizzano altri espedienti, altri strumenti, ma gli scontri dipende dall'autore, però scontri per se ne stanno, sì, ho capito, ti, diciamo che nelle ultime eccezioni mena pure lui, ok, ma sono eccezioni, diciamo, come dire, c'è il fisico, alternative, c'è il fisico, ho capito, cioè, nel senso non c'è anche un'eccezione in cui Batman è il vecchio decrepito, però si mette un esoscheletro e mena come un fabbro, va bene, però insomma, cioè col vecchio, se tu vedi Kingdom Come mena Superman con un endoscheletro, t'arriva Joker 95 anni, cioè, vabbè, forse comincia a essere un po' una cazzata, cioè, ripeto, tutto, a meno che non cambi completamente il film, lo fa diventare la classica puttanata fumettistica, se no, se vuoi tenere quel tenore realistico, io non lo so come c'ho un filo dentro. Ma no, allora io non ce l'ho poi infilato. Io dentro. Non credo che anche se ci fosse un seguito di Joker senza Batman, Batman lo devi fare senza, no, non si esce. No, ma penso anch'io, ma proprio perché non ce n'è necessità. E tra l'altro, secondo me, in The Batman con come si chiama? Pattinson. Con Robert Pattinson, quello deve essere una boviata. Allora quello rischia di essere peggio di quelli con Ben Affleck, perché stavo leggendo che Ben stanno Affleck. Reclutando tutti i super cattivi del Continuum in un Ben film Affleck. Solo voglio fare un film serio. Vabbè, voglio fare un film serio, sentite il rumore di virgolette, questo è il rumore di virgolette. Un po' cupo, un po' anche violento. Ma infatti sono mica il regista, mica ah no, scusami, giusto, hai ragione. Lo voglio fare io. Ok, facciamo film. Lui fa il film, pronto per farlo. No, però guarda, sarebbe il caso che tu non fai il regista, lo fa un altro. Va bene. Quindi qualcuno ci avrà rimesso le mani. Ok. Dopodiché, aspetta, di quale stiamo parlando? Stiamo parlando di The Batman. Di Batman. Quello che poi non ha lui non ha, cui non ha partecipato. Che sarebbe quello di Pattinson, lo stesso. Cioè, tu parti da Ben Affleck e fa regista. No, volevo capire se l'attore. Stai parlando di Batman vs Superman. No. Che fa protagonista, fa l'attore e il regista. Quindi si è fatta la storia lui. Con un Batman di 50 anni? Ci stiamo? Ok, di mezza età. Quindi che sta lì da un bel po' di tempo che fa Batman. Dopodiché, lui fa soltanto l'attore. Dopodiché. No, guarda, forse è il caso che te levi dai coglioni pure da attore. Dopodiché, forse è il caso che se devono dai coglioni pure a storia. Perché se tu c'hai un Batman dei 50 anni e poi ci metti uno che c'ha altre. Quanti ce n'ha Pattinson? 30, forse neanche. Una 35. Ok. Evidentemente quell'altra storia probabilmente la ricicli poco. Insomma, comunque la devi cambiare parecchio. Quindi, secondo me, è una storia che ci hanno messo mani di tutto e di più. E verrà fuori uno dei peggiori versioni dai tempi di Batman e Robin con George Clooney. Mamma mia, no, il più brutto in assoluto, vabbè. Robert Schumacher. Sono entrambi di Robert Schumacher? No, stavo facendo la battuta. George Schumacher, sì. In realtà sia quello che Batman Forever con Val Kilmer. Mamma mia. Ma perché Batman esiste pure quello, è vero. Quello, sì. Mamma mia, ma lì secondo me c'è, come dire, George Schumacher ha voluto fare un Batman molto fumettistico, molto diverso da quello di Tim Burton prima, che era molto cupo e molto in qualche modo, come dire, gotico. In questo caso lui ha voluto omaggiare il fumetto originale. Quindi alla fine è da prendere meno seriamente di altri, anche per tutto molto, come dire, molto caricaturale in quei film. Invece stavo guardando che il Batman con Pattinson, eccetera, marca male, secondo me, anche nella scelta degli attori, perché a parte tutta questa forzatura alle volte di mettere dei personaggi di un, diciamo, come dire, passatemi il termine, di colore, per cercare di creare equità da un punto di vista, no, dei personaggi. Allora, Catwoman di colore l'abbiamo già sdoganata all'epoca con El Berry, che Dio la benedica. Il film era una cagata perché era brutto il film. Ma infatti, perché è un po' apocrifo, perché alla fine non c'è sta solo lei, non c'è sta Batman, non c'è sta roba. Ho capito, come fa pure cinese in quel momento, insomma, non c'è problema. È come se mi metti il Joker cinese. Perché no, il Joker cinese? Allora, porco demonio, vabbè. Ci arriveremo. I cinesi stanno cominciando a rivendicare il loro spazio. Joker. Poi abbiamo quindi Zoe Kravitz, che vabbè, farà Catwoman. Ok, abbiamo Jeffrey Wright, che altro attore di colore, che farà il commissario. Cioè, perché? Ma perché me devi cambiare? Cioè, ma quale scopo fisico se non quello di fare per forza la fottuta quota nera? Quanto le odio queste quote di merda, politica di corretta di merda. Ma se un personaggio è bianco, perché me lo devi fare nero? Se il personaggio è nero, perché me lo devi fare bianco? Sono quelli cazzo dei personaggi. Blade bianco, voglio Blade bianco. Porco zio. Cioè, allora voglio Blade, il vampiro di merda bianco. Tra l'altro, io sul nuovo Blade con Mahershala Ali ho parecchie aspettative. Speriamo bene. Meglio di quell'altro, probabilmente. Cioè. Ma dai, alla fine. Primo, aspetta, se ci pensi. Per quegli anni era guardabile, esatto, ma gli altri. Erano film. C'era il cane vampiro, mi sembra, a un certo punto, al terzo. Come sbaglio? C'era? Il cane vampiro? Però erano film a basso budget all'epoca, dai, anche a bassa pretesa, insomma, sì, in un qualche modo sì, quindi già, lasciamo il tempo che trovano. Wesley Snipes era un cafone, che tra l'altro è uscito dalla galera poi. Sì, alla fine credo di sì, perché sapete, in America per evasione fiscale si finì in galera. Quello che dovrebbero fare in Italia, quello però lo faranno mai, non lo vogliono... Perché poi tutti in galera, insomma. Vabbè. Sì, sì, sì. Però esatto, il problema è che non ci sono abbastanza carceri per quanti evasori fiscali ci sono. Brutto lì, però, vabbè. In realtà, però, parlando di The Batman, basta che costruisci un muro tutto intorno in Italia, ti costa di meno che costruire una prigione. Ce la fa Trump, e via, esatto. Basta non... via. No, ti volevo chiudere dicendo appunto che in questo The Batman, allora il cast finale. Scritto è ancora... B-U-T-T-M-A-N. The Batman, esatto. Okay. Il cast finale non è ancora noto. Quello che sappiamo è che probabilmente ci sarà una pletora di super cattivi, perché ci sarà l'Enigmista, c'è Catwoman e ce ne sarà l'Enigmista cinese? Lidl? Il pinguino? Il pinguino lo facciamo indiano? Che fai? Ci metti in indiano? Poi gli indiani mi sono cazzo. No, il pinguino lo fai eschimese, che cazzo. E c'hai ragione, è vero, c'hai ragione. Allora facciamo Joker, lo facciamo indiano. Che si mette a fare Bollywood a un certo punto, riprendendo un po' il fatto che Joker nel film di quello che è uscito adesso, lui c'ha queste cose che si mette a ballare, fa dei balli strani e fai Bollywood Joker, come lo vedi? Potrebbe funzionare a questo punto, facciamo tutto un potpourri di razze, miscugli, religioni, ci sta il Joker ebreo, un'altra versione, non lo so, caso potrebbe magari essere. Guarda, qualcuno implicitamente più di un personaggio potrebbe essere ebreo, visto che sì, nella, però no, diciamo, spiccatamente ebreo, cioè come con la treccina, cioè che sarebbe essere proprio ebreo, cioè se così completamente fuori luogo, però sarebbe bello. Ecco, Harley Quinn ebrea, così. Però che va in giro con la treccina, quella ebrea e la barbetta anche, così. Oh, buttiamola là. Tra l'altro, Come dice Rizzard, dice: ma perché parliamo di quanto è infame Val Kilmer sul set? E zio Mischi che dice: perché io non so bene a quale fatto si stia riferendo Peppe Rizzard. Sono decenni che non fa più un cazzo, perché probabilmente. È un grosso obeso ormai. A parte quello, Val Kilmer sembra al naturale, da un punto di vista, diciamo, dei connotati fisici, è diventato come era stato truccato Chris Hemsworth per fare Thor ciccione nell'ultimo Avengers. Proprio un ammasso di ciccia. Infatti fa il doppiatore di base. Non sono neanche sicuro che sia stato truccato. Penso che abbia preso peso. Sì, ha preso anche peso, ma non penso fino a quel punto. E tra l'altro zio dice: ci vorrebbe anche logo delle LGBT. E ci stiamo arrivando. Ci stanno, voglia. Batman se bacia con Robin a un certo punto. Vi dico solo questo. Niente di nuovo. Allora, conoscendo un po' certi retroscena, diciamo così, probabilmente Batman si bacia con Robin, ma Robin non è molto d'accordo, nel senso che tendenzialmente non so. c'è questo parallelismo per cui, guarda, insomma, il rapporto tra Bruce Wayne, punto, secondo me, e Grayson non fosse proprio dei più, ci sarà un'orgia di gatti, cani, pinguini, cioè una cosa del genere, perché sennò, insomma, veramente è diventata una, ci dobbiamo documentare su questa storia, questo dietro le quinte hollywoodiano su Val Kilmer. Adesso sono curioso perché Pepper Izzard dice, cercate sul web, Val Kilmer ne ha fatte di ogni in ogni suo film, a che a un certo punto le produzioni l'hanno cacciato. Ed è diventato obeso, quindi non è diventato obeso perché faceva le cose sul set, faceva le cose sul set e poi dopo l'hanno cacciato è diventato obeso perché tanto era inutile. Guarda, sarebbe meglio berci sopra, esatto. Voglio approfondire, ma d'altra parte io sapete che comunque voglio rivalutare e rivendicare il diritto di Kevin Spacey di tornare a lavorare. Esatto, l'ultima cosa clamorosa che fecero nel campo fumettistico della quota nera è mettere la torcia umana nera, per dire, buttiamola una. Aspetta, la torcia umana, tu stai parlando dell'ultimo, proprio dell'ultimissimo 4. Fantastici 4, che tutti cercano di dimenticare, ma sappiate che è lì che vi guarda con la, guarda, sua quota nera inopportuna. Anche i precedenti Fantastici 4 erano brutti. Erano brutti, però avevano una dignità, per quanto fossero brutti, erano costruiti in un certo modo. Questo qui, l'ultimo, veramente una zozzeria immane. Quindi gli auguro, proprio perché questa cosa di voler mettere per forza le quote di merda ovunque, gli auguro che faccia la stessa fine. E secondo me ha buone possibilità di fare la stessa fine. The Batman? Mi sa di sì. Ma d'altra parte mi dispiace doverlo constatare, ma dei film, diciamo, supereroistici in senso più stretto, o se Marvel, escludendo Joker, o se Marvel, la Warner non ne azzecca uno. Bellissima la trilogia di Nolan, perché allora, la meno fumettistica. Li sta azzeccando l'ultimate, Joker, Aquaman pure, comunque è simpatico. Apro una parentesi, ci guardiamo. Ok, chiudo la parentesi. È molto meglio di quello che è stato prodotto fino a quel momento. Allora, ti giuro, non l'ho visto perché io non riesco a immaginare un film incentrato sulle capacità recitative di Jason Momoa. Tanto deve solo menare. Perché fa il drugo e sodomizza Daenerys. Deve solo menare. Bene. Ma il resto, guarda, deve solo menare, tranquillo. No, guarda, è vedibile, è pure simpatico tutto sommato. Ma infatti è fatto bene per quello, non si prende sul serio quel film, riesce insomma a essere piacevole tutto sommato. Sai cosa penso? Che c'è un lag tra quando parliamo a quando arriva l'audio agli amici tra, tra quando pensiamo, secondo me Rizzard ha citato i quaccheri adesso, tu ne hai parlato 5 minuti fa, non so neanche cosa è il quacchero, comunque in ogni caso esatto, l'importante è che non si noti il lag che c'è tra quello che pensiamo e quello che diciamo, perché c'è molto lag lì purtroppo, quindi. Io non ce n'ho lag, io non penso, esatto. Io dico direttamente, io penso di aver pensato questa cosa 3 giorni fa, quello che sto dicendo adesso. Comunque no, non so i quaccheri, so i, vabbè, i quelli che so, quaccheri, no? I fantastici quaccheri, ho capito la battuta, scusa, vabbè, ho mischiato un po' di cose io, vabbè, sì, diciamo che non ho aspettative per nessun prodotto della Warner, detto sinceramente, perché poi alla Marvel si possono dire tante cose, ma sono una macchina da guerra, fanno, poi non fanno cinema, non fate incazzare certi registi saghi Scorsese, e poi quell'altro che è ultimamente che si è aggiunto pure, Scorsese, svariati, però tutti sì, diciamo ottogenari, registi va bene, non è cinema, che loro sia cinema. Io dico sempre, se vai al cinema consapevole di quello che vai a vedere, va tutto bene. Avengers o qualunque altro film di, anche di Fantastici Cinecomics, 4 con la torcia a mano nera, cioè anche se quello lo vai è a vedere, perché ti vuoi svagare e sai che stai scegliendo un prodotto di bassa qualità artistica, va più che bene, non c'è niente di male, ti rilassi, 3 ore stacchi la spina, 2 ore e mezzo, quelle che sono, vedi belli effetti speciali, trick and track e mortaretti, torni a casa che magari ti sei anche divertito, perché voglio dire, sono film che fanno divertire. Assolutamente sì, che se facessero annoiare. Invece il fatto che poi, cioè il fatto che probabilmente certi registi non si spiegano perché i loro filmoni belli, ma in qualche modo anche, come dire, da legnate sui coglioni, passatemi il termine, incassino magari un decimo di quello che incassano questi film di cassetta, come si diceva che una gente volta. Si vuole divertire, la stessa cosa, perché Natale al cazzo di bagno incassa di più di un altro film che potrebbe essere molto più bello, anche sicuramente sarà più bello, ci vuole poco. Perché la gente vuole lobotomizzarsi, esatto. Cioè molti lo sono, ma alcuni vanno per lobotomizzarsi ancora di più, per staccare la spina, staccare la spina dorsale, cioè, i problemi. Vedere un film che ti ricorda i problemi del tuo quotidiano magari è meno, come dire, è un desiderio meno diffuso che vedere qualcosa che invece ti astrae e ti fa, esatto, tornare e per chiudere questo argomento vi dico che sta per uscire il seguito del film su Cetto la Qualunque. Ma ho visto, credo mamma fosse mia. Finto. No, è vero, è vero. Vabbè, anche lì che ti devo dire. Tanto è Natale, ci siamo, tra poi cinepanettoni. Vabbè, considera, Vanzina è morto. Uno, ma l'altro potrebbe prendere ma le sue reti. È solo sceneggiatore, non è regista. Neri Parenti, mi pare che insomma, non dico che sia stia sulla buona strada, però insomma, ormai una certa età ce l'ha. Toto, famo Toto, il necronostico pure su. Facciamo il necronostico, ma anche per muore prima. Neri Parenti. Massimo Boldi o Cristian De Sica? Massimo Boldi sa gioca con Neri Parenti, Cristian De Sica è tutto sommato più giovane, Cristian De Sica è poco. Vabbè, ragazzi, allora riavvolgiamo il nastro, risalutiamo tutti gli amici che questa sera ci hanno fatto tanta compagnia, quindi tanta pazienza. Gemischi, Peppe Rizzard, quanta pazienza che Stefano, ci avete. Davide Gatti, Lobby Frontali e chi più ne ha più ne metta. E tutti quei pavidi che non si palesano perché si vedono. Milioni e milioni di persone che non ci ascoltano direttamente. Che però adesso non sono più un milione, ma sono 300.000, perché ricordiamo, per chi non lo sapesse, che a un certo punto, com'è come non è, Spreaker ha deciso di cambiare il modo in cui calcolano gli ascolti. Di che conseguenza non ci ascolta nessuno. Queste, esatto, persone che ci lasciano, dice, i commenti, un terzo in realtà di zero, quant'è? Zero. Comunque queste persone che ci lasciano i commenti in realtà non ci stanno ascoltando, è quella la cosa. No, tu sono, pensi no, che ci ascoltano? Non ci ascoltano, ve lo spiego io. In realtà sono bot avanzati a Morisi, alla bestia, che ce li dà via per poco, perché insomma gli mandiamo una teglia di lasagna e lui ci dà questi bot che ci fanno illudere di avere qualche decinaio di migliaia di, attenzione, di che gli Stati Uniti hanno deciso di dichiarare guerra contro i venditori di followers in generale, e contro questa pratica dei, appunto, dei followers falsi, che praticamente secondo loro minano la concorrenza, e quindi gli hanno mandato una lettera con su scritto "Stato a court". Va bene, ragazzi, io non voglio tornare su certi argomenti, anche perché sono più pastura per il buon Data, esatto, Nightmare, non ci parliamo di noi, non abbiamo assolutamente la cifra tecnica, ma non ce ne frega morale niente per parlarne, non ce ne frega neanche molto, chi ce lo fa fare? Come dice giustamente Peppe Rizzard, queste lasagne a Morisi mangiamogliele avvelenate, ci mettiamo l'elisir. Va bene, ragazzi, che dire, anche questa sera ce la siamo portata a casa. Scusate se siamo sembrati con un pochino, molta fatica, un molta, pochino molta poco fatica, convinti, ma in realtà è stata una serata un po' particolare, un po' sui generis. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Non prima di ricordarvi, però, che se volete, ci sono sempre la nostra campagna, tanto che non lo diciamo, però ci sono sempre la nostra campagna Patreon e il nostro runtime radio at gmail.com su PayPal, se ci voleste fare una donazione è automatica ogni mese, 1 euro, 2 euro, quello che volete, piuttosto che una tantum. Siamo vicini a Natale, bisogna fare del bene, perché non farlo a noi piuttosto, esatto, che ad altro. Noi abbiamo tanto bisogno. Poi d'altra parte, ragazzi, le birre costano, oh yeah. Ed è rifinita la background all'uopo, proprio nel momento adatto per salutarci. Marco, allora, ciao, è stato bello vederci, però non dobbiamo vederci più in queste situazioni, basta. Io non posso che unirmi al grido di dolore del collega e, saltandovi, vi do appuntamento alla prossima settimana. Buonanotte, ciao.